Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Eccoci, come promesso, tutte le domeniche, assolutamente in diretta, Radio 24, Pino Insegno, Voice Anatomy, e con già i primi ospiti. C'è un ospite d'eccezione che è un grande amico, che rimarrà vicino a me, che non sente la cuffia, che rimarrà vicino a me per tutto il tempo. Senti anche di là, grande tecnico del suono. E ci senti adesso? Adesso sento tutto. Adesso diate anche il cursore, cominciamo. No, ecco, adesso sento tutto. Max Tortora alla mia destra. Buongiorno, buon pomeriggio. Buona domenica, che meraviglia. Grazie che mi ha invitato qui, sono onoratissimo. No, grazie a te, perché questo si chiama Voice Anatomy. Se non potevi far parte di questa trasmissione tu, nessun altro poteva venire. No. Detto da sé, insomma, ragazzi. No, è un grande piacere, perché Max, quando ho chiesto, come facciamo sempre, vuoi venire ospite a Voice Anatomy? Ho fatto no, io vengo ospite, ma dall'inizio rimango fino alla fine. Sì, per sì, cui sì, sarà. Sì, sì. Una sorta di valletto ospite d'onore. Noi, grande Max, possiamo dirti che cominciamo sempre con un attore doppiatore questa trasmissione, ormai da più di un anno, e oggi tocca una delle più belle vociacce, come la chiamo io, del doppiaggio italiano, e non solo, e che doppia, sei un attore da quando avevi 5 anni, tu lo sai? Lo so. Ecco, purtroppo lo so. Lo sai, che è benissimo. E nei film La Domenica della Buona Gente, La Casa Stregata, e nei telefilm Carabinieri e Il Maresciallo Rocca. Questo è fatto. Tutto corretto. È tutto corretto. Sei dotato di una voce potente, ruvida. Ruvida. E virile. Ed è noto per aver doppiato, a parte Richard Jenkins nell'Ospite in Attesa lì, meraviglioso, un film straordinario, anche James Brown dei Blues Brothers. Come no? Tu hai visto la luce. Ah, eri tu il... Tu hai visto la luce. Che meraviglia, senti che bello. No, lui è... Poi Max è un grande fan. Ma sai che le cose belle? In questo mestiere, come tutti i mestieri, la cosa bella è fare i complimenti. Cioè, il tuo successo non deve essere l'insuccesso di un altro. Ah, beh, quello è finita. Si spera. La gioia di essere entusiasti come i bambini. E Max è sempre avuto questa luce negli occhi. Ogni volta che mi incontri, dice: Madonna, l'altro giorno gli ho detto: Donna, fa pipì. Sento sta al bagno. Senti, ho detto con sta voce: non sembra che vai a fare la pipì. Io ho detto: Max, parli tu, che c'hai la allora voce. Io, rispetto a lui, c'ho questa. Tu poi, Nicodere, mi insegni questa voce velata che non mi consente. Velata. Non mi consente né il doppiaggio né fare ma te lo dico io, perché mentre voi avete questa cosa, questa ma senti Angelo, caverna, no, ma perché no, che meraviglia, senti. Non è come pensi tu, non è la bella voce, come dico sempre, lo urlo, sono le belle intenzioni che fanno la bella voce. Poi ovviamente una voce calda ti accompagna di più in certe aria. Sì, anche io mia moglie l'ho conquistata al buio con la voce bassa, poi lei mi ha toccato e ha detto: non sei nero come le voci. Per cui hai capito perfettamente. Serve, no, Angelo, un'educazione vocale importante. Lui ha una voce caratterizzata al massimo, perché è bassa, poi è veramente ti gratta, ti carezza la gola, te la strappa. Nottate per strada, prende freddo, per riuscire ad avere una voce, insomma. No. Tu sei figlio e fratello d'arte. Io sono figlio e fratello d'arte. Quanto sono stati decisivi, fratello? Insomma, diciamo chi era tuo fratello. Mio fratello era Giancarlo Nicotra. Giancarlo, regista televisivo straordinario. Purtroppo non c'è più, mio amico, mi onoravo di essere amico di Giancarlo. Ma sì, no, persona splendida. Grande. Grazie. Regista, grande. Uno degli ultimi grandi, anche sì. Se Antonello Falchi grazie, è ancora vivo. Max. È vero, verità. Non te, tu lo conosceva come doppiatore, come attore, ma non avevo, non hai mai lavorato con Angelo? No. Purtroppo no. Succederà, perché lui è direttore di doppiaggio anche. Succede, lo facciamo succedere. Ma succederà. Assolutamente. Allora, io da ragazzino avevo l'ambizione di doppiare i cartoni animati, sì. E poi vi racconto una cosa quando c'è tempo. Perché certo, c'era puntata. Il Silma Bivox, che era un Super 8 che aveva una traccia sonora. Io doppiavo Stanlio Ollio e glielo facevo vedere a mia zia Giannina nascondendomi dietro la porta per vedere le reazioni. E che a succedeva? 12 anni questo, eh? Succedeva già a 12 anni, tu sì, volevi sì, già sì. Fare questo mestiere. Io volevo fare solo questo. Tu a 5, capirai. C'è un amico in diretta, noi normalmente apriamo con un ricordo, qualcosa che è successo il giorno della messa in onda, invece da questa nuova stagione voglio invece sentire la viva voce delle persone che hanno magari raccontato un'epoca, e lui è veramente Highlander. Io dico soltanto, senti, già sta ridendo lui, e non è spono che magari mi ridi, mi perdi il fiato, cioè meno male siamo arrivati a 80 anni. Qui c'è un tuo grande amico che è Tortora Max, ma ti conoscerà anche Angelo Nicotra di nome, tu c'hai ancora, io non voglio dire chi sei ancora, che ancora è la potenza nella voce di un ventenne. Qual era quella canzone, tante ne hai fatte, che ti hanno portato al grande successo come urlatore e come cantante di musica leggera pop italiana degli anni 20. No, scherzo. Come? Ah, degli anni 20, ma non ero ancora nato. Come prima, più di prima, cambierò la mia vita ti darà. E poi c'è il famoso il mio mondo. Ti amo. Che bravo. Beh, ma Tortora. Allora no, se tu chiami Memore Migi fa benissimo, sì, l'imitazione di Tony Dall'Ara. Sì, perché per lui che parla al telefono, ciao Memo, come stai? Che praticamente ma porca miseria, che bello, guarda, veramente delle persone, siete delle persone meravigliose, ma non perché facciamo queste cose qua, perché siete persone vere voi. Ce ne grande. Sono poche vere in questo ambiente. Io e Tony ci siamo presi dopo un secondo, io devo menare per farlo sta zitto a Domenica Inne, ma io lo amavo, me lo sarei portato pure a casa un Tony Dall'Ara. Se stai giù de morale, te lo metti sul comodino, Tony, a sveglia e sì. Tu sei romantica, amica delle nuvole. Lo senti che forza che è del 36 sto bambino, sì. Grazie di vero, ho appena fatto anch'io 80 anni, ragazzi. Sì, ma... più o meno io e Max pure avevamo fatti, ma non so se ci arriveremo. No, quando li faremo, no. Altro che no. Belli, semplici, veri come siete, altro che tu 80, si va fino a 100, scusa. Ah, Tony, posso raccontare che tu sei un grande pittore? Come no? Sì, ma guarda, io ho un quadro suo, bellissimo. Dico grande o non grande, ma io prima di mettermi a cantare mi sono messo a dipingere, però non c'era neanche i soldi per andare a mangiare, non potevo andare a studiare a Brera, e allora mi sono messo a dipingere. Poi in casa mia mio papà piaceva la lirica, mia mamma cantava benissimo, così in casa, così, e era proprio nel sangue che io dovevo cantare. Però non è che uno mi ha detto canta così magari fa successo quella. Io cantavo come ho sempre cantato e basta, e non ci credi ancora adesso nessuno, come se io avessi fatto finta. Invece dove cantavo nelle famose sale da ballo, che cantavi fino alle 3, alle 4 di notte, c'era uno che alla fine della serata continuava a dire: ma sto voce sì, ma cosa credi, ma canta più si adasi, canta più lento, ma io canto così, perché non dicevano, ma questo qui invece di cantare grida, strilla. Invece è il mio modo di fare di cantare. Beh, e allora... caratterizzato rimane tuttora, insomma sono passati quanti anni, però Tony, la tua caratterizzazione ti ha portato anche quella il grande successo. Urlatori, certo. Sì, certo, perché poi prima cantavano tutti in silenzio, silenzio. Se avessero paura, e poi parlavano tutti di disgrazie, la mamma, la nonna, i figli, mormora la bambina, insomma. Invece mia madre cantava mamma mormora la bambina, io da ragazzino, poveretto me, insomma, soffrivo, piangevo come un disgraziato. Poi quando sono andato a Sanremo, quando mi hanno chiesto vuoi cantare una canzone di Lascia, sì, va bene, sentiamo, ho detto signore, però a parte che ho tagliato due strofe perché c'era una strofa libera che durava un'ora, e poi ho detto però la canto come voglio io, e difatti è uscita così, insomma. Ed è quella che uno si ricorda di più, poi. E devo dire che quella fu l'unica volta al mondo in cui tutte e due le versioni fecero successo, certo, perché una a volte all'altra. Piaceva o l'una o l'altra, esatto. Nel caso specifico era talmente bello il pezzo che comunque sì, poi c'era poi quando sono venuto lì da Tortora, quando è venuto lì sul palcoscenico Modugno, mi fa: perché non hai cantato la mia canzone? Ma tu ti ricordi che quando tu hai fatto questa cosa da me in televisione ho detto che sembravi Arduce? Appunto. A rifarla un po' com'è? Senti. Perché non hai cantato? Io ho detto, se tu me l'avessi data io l'avrei cantata a noi. Sì, è vero, sembra un discorso dell'Arduce. Tu di dove sei, Tony, originario? Io sono mia madre Campobasso Molise. Campobasso. E mio papà milanese di Milano. Certo. Milanese di Milano, certo. Di Milano, Anche, no, certo. milanese, perché dicono tutti di qui, di là, di giù, è meglio dirlo come in lingua si dice, New York of New York City. Esatto, allora, sono di New York City. Milano City, Roma City. Roma City. Giusto. Tony, senti, noi ti abbracciamo. Ovviamente, tanto il tuo numero ce l'ho e ti voglio riutilizzare. Tanto, se capiti per Roma, sei a casa. Lo so che non viaggi tanto, io però. Sono molto felice di avervi conosciuto e di aver lavorato con voi. Bello. Spero che voi lavoriate ancora tantissimo, perché siete eccezionali. Bello. E poi ripeto, siete persone vere, ricordate, vere. Ma tu non sei... come tanti che vanno solo finta e sono tutti sbagliati. Pino, posso fare una richiesta prima che tu congedi l'amico Tony? Andiamo in pubblicità. Lui ha cantato in tutte le lingue del mondo un pezzettino in giapponese che è esilarante. Allora, pronti, potete anche registrarlo e farlo sentire qualche giapponese. Ma certo. Allora, la canzone è Anna Tato, Arita, Anomicini, Yogirigas, Smetaku, Nagareteta. Tarkur dice la cosa. Scusate, e ti dico anche grazie in giapponese. Sì. Tomo rigato gozai masai. È da Tony Dallara, vogliamo dirlo? Cioè, è da Tony Dallara. Sì, se vuoi vi canto anche in greco, in turco. Ma ti prego, ti richiamo, giuro su Dio, dobbiamo dare la linea alla pubblicità. Tony, un saluto enorme da questa radio, soprattutto da Max, da Pino e da Angelo. Grazie, ciao. Un grande abbraccio a voi, grazie ancora. Arigato. In salute sempre, grazie ragazzi. Ciao Tony Dallara, a tra ciao, poco cari. Signori, avete visto, bacione. Puntata scoppiettante, Voice Anatomy è appena cominciata, restate con noi. Anatomy. Eccoci di ritorno, sono le 14:48 primi e 22 secondi. Alla mia destra l'amico Max Tortora, perché di amico qua. Si tratta, non solo ospite ma accompagnatore di tutta la trasmissione, sono felicissimo. Alla mia sinistra il grandissimo Angelo Nicotra, abbiamo avuto da poco Tony Dallara in giapponese. Che meraviglia, Tony parla così, ma lui parla veramente così, sì. Vedi, poi dicono, se sei un imitatore, non è imitatore, è uno, sa usare la voce e sa declinare. Memo Remigi, lo grandissimo. Chiamerò, non c'ho il numero adesso. Ma te lo do io, tu lo chiami in diretta e ti fai fare l'imitazione di Tony Dallara. Lo fa meglio di lui. Più Tony Dallara. Io te faccio meglio di te. Quello è bellissimo. Angelo, tu col doppiaggio come sei entrato? Io sono figlio d'arte, papà? Papà faceva questo lavoro, lo questo stesso era, mio lavoro, esatto. Mamma no. Mamma no. No, ci ha provato, ma era una pippa, si dice. Una pippa si dice un po' dappertutto. E niente, ho cominciato facendo questa, lavorando con Anton Giulio Maiano, che era allora era un regista, insomma. Dei grandi sceneggiati. No, le fiction. E lui mi prese, insomma, per fare una parte con il bambino di questa Domenica della Buona Gente, si intitolava il film, mm-hmm. si intitola il film. Un film a episodi nei quali uno c'ero anche io, che facevo una cosa, ed è stato il mio debutto, insomma, quello. Qui stai in pensione già da tanto, se ma da tanto, stato tanto, un contributo. Tanto. Io non so quanti anni hai, perché non lo leggo, non ho mai saputo, perché ho fatto e ti sei levato tutti i capelli. Sì, l'ho fatto di proposito. Si perdono, uno si leva almeno qualche anno senza i capelli. Senza capelli non si riesce a capire quanti anni c'hai, hai, perché non, so, non c'è il bianco, non c'è, c'è niente, c'è niente. Non c'è la disidratazione del capello. C'è l'infiltrimento, la distruzione, e uno rimane sempre giovane. Ma sei perfetto, hai fatto rappresentante per casa per casa. No, di... però mi ricordo Yul Brynner, tu dici, ma quanti anni c'hai Yul Brynner? Telly Savalas. Anche Telly Savalas. Savalas o Savalas? Savalas. Savalas, sì. Perché... Come si chiamava il suo collaboratore che chiamava sempre? Aspetta. Nome di Kojak, che non mi ricordo il collaboratore. Kojak, me lo ricordo Kojak. Sì. Chi lo doppiava Kojak? Kojak, chi lo faceva Kojak? Adesso mi sfugge totalmente. Ci vorrebbe tutta una redazione. Sì, che bisogna tenere Antonio, che hai una Jenna per ogni Jenna pronto. Sì, che clicchi. Pensa che io dimentico sempre invece quella voce molto caratteristica che davano a tutti quelli che facevano le mezze calzette, sempre, che erano con gli occhiali piccolini, un po' pelatini. Era sempre lo stesso doppiatore che tu mi insegni, Pino. Chi sicuramente era? Mi insegni da Pino, insegno quale sei. Lino Troisi, mi dice. No, era Lino Troisi, sì, Troisi. Lino Troisi. No, ma non era Lino Troisi. No, sicuro che non era lui. No. Carletto Romano no, perché faceva no, Carletto Romano, Carletto Romano era un po' tipo Tony, anche lui parlava Jerry Lewis. Ciao ragazzi. E perché non facciamo il doppiaggio? Lui dovrebbe entrarsi dentro di diritto, perché poi devi acquisire solo la tecnica, che non è poco. Che non è poco. Che non è poco. Però tu la vocalità naturale ce l'hai, vai anche a imitazione. Ma guarda che sono più complicati i cartoni animati, vedo Angelo. Sono difficili. Perché devi dargli tutta la tua personalità, perché non hanno la faccia e l'espressione che l'attore in carne e ossa ti dà. Quindi è più facile l'essere umano, mi dici? Sì, ah, ma questo è meraviglioso, io non lo sapevo. Insomma, ci proverò in vecchiaia. Spero che vecchiaia? No, adesso questo sono 54 a gennaio, caro Pino. Lascia stare, io non ce l'ho più 56, per cui è buono. Pure Angelo non ce n'è più 60. Cioè, io mi sono scordato. Non me frega, non lo so. Non lo so. Devi sapere. Sono Highlander, non ne resterà soltanto uno. Cavolo, quindi che io bella cosa. Non la posso fare. A quale personaggio sei più affezionato? Anche delle serie televisive ne hai fatte tante. Tante, ne abbiamo fatte tante. Allora, intanto cominciamo col parlando 2-3 minuti, anche 20 ore. Sì. Non so. Quanto te pare, sei libero. No. Voglio dire, quelli di animazione sono quelli più divertenti, no? Sì, quelli sono divertenti perché resti tu perché tutta la vita. Mister Potato. Mister Potato. È vero che sei Mister Potato. Mister Potato. Poi Branchia di Nemo. Branchia. Gonzo dei Muppets. Oh, Gonzo sei tu, che roba sì, brutta. Bello, Gonzo ma perché? Sì, me lo cioè, ma poi sto naso, ma che Gonzo, che animale? Non è un animale. Non è un... Cioè, sta cosa così non... Esatto, non lo sei so. Tu forse, hai la voce volto, forse, non lo so. Sì. Forse l'hanno preso per quello. È vero, raccontami gli altri. Poi, beh, questi sono fondamentali, importanti. Vabbè, questi sono fondamentali. Poi, ultimamente, insomma, tutti quelli che sono le vociacce. Sì, dello schermo ce l'hai tutte. Le vociacce ce l'ho tutte. L'ultima. Delle serie, tu quale fai adesso? Delle ultime che ci sono? Ma lo sai che io non mi ricordo mai quello che tu faccio. Tu il Trono di Spade però... lo fai, per esempio? No, sei nessuno. Non so nessuno. Non si sa neanche. No, si sa. L'ho fatto per 29 anni, 28 anni. Si è sai, è romana, no? Si è sai, si è sai, si è sai, dille, no? Si è sai, io che te io ero il... Lui faceva quella versione lì. Io ero il detective Brass. Brass per 25 anni, no, 29 qualcosa anni in meno. Qualcosa 12 in anni, 13 anni. 12 anni, 13 anni. Si è sai quello vero. Noi in Miami, quello... No. Si è sai è solo quello è si è sai. Esatto. Non ce ne sono altri. Poi sono andato un po' avanti, insomma, parlando delle ultime cose, adesso il 25 esce questo Ben-Hur, quello di adesso. Quello di adesso, non Charlton Heston. No, ma c'è Morgan Freeman che doppio io. E certo, sei uno dei pochi ancora che può seguire questi attoroni neri. Che vado spesso in un famoso hotel della capitale a pranzo, avevo a pranzo vicino a me Morgan Freeman per tutta la durata della lavorazione a Roma. Volevo fare una foto con lui, ci tenevo tanto, ma lui non gradiva le fotografie. Ma allora, fanno sta cosa gli americani, hanno ste fisime, pure noi italiani. Beh, insomma, non è che tutti i giorni c'ho Morgan Freeman seduto vicino, quindi ci tenevo particolarmente, ma non ci sono riuscito. Se tu mi metti una buona parola, caro Nicola, dice guarda che torto la sta ancora aspettando la famosa. Io ci provo. Se no te lascio muto, bello. Io voglio provarci. Se no te lascio muto. Non so il risultato. Per il mio album delle fotografie, Pino già ce l'ho. Ce l'abbiamo, sì. Con Magalli ce l'ho. Manca Barry White. Barry White e Morgan Freeman. Il resto ce l'abbiamo un po' tutte di queste foto qui. Anch'io amo tantissimo quando si incontro gli attori d'oltralpe. Che fai? È bello, però certi non amo. Io una volta ho incontrato Brad Pitt, non l'avevo doppiato, io ho doppiato solo una volta, sono l'amico acerbo Memena. No, che stai scherzando, tanto io l'ho detto, un giorno mi dirigerai quando doppierò Brad Pitt, succederà. E era il film Ocean 12, mi pare. Cioè, lui stava, ho visto che usciva dalla sala con due negroni enormi, 3 metri, ho detto esco, c'ho la foto del film che ho doppiato, Sinbad, dove lui era Sinbad, dico ma vicino, quello è enorme, mi ha preso, mi ha dato una spinta, ha fatto no, I am the voice, Italian voice of Brad Pitt, ok, mi ha avvicinato, Brad Pitt ha fatto un autografo, remember, io che piace un inglese, che è una cosa brutta, ha scritto al mio traduttore, a Pino il mio traduttore, Brad, il traduttore sono diventato, sono il doppiatore. Vabbè, ce l'ho uguale. Ma ci parlo io, ma stai tranquillo. Ma anche Sean Connery quando l'ho incontrato voleva fare la battuta idiota che ci fanno pure tanti altri, adesso andiamo a pubblicità, che ho detto, ah, ma ha filmato a Pino Sean Connery, fa, ah, non sei Roger Moore, ah, ha cancellato Sean Connery, ha scritto Roger Moore, e così mi ha sorpresa nel secchio. C'ha ragione lui. A tra poco, voi sanatomi, restate con noi. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy. Sono arrivate parecchie messaggi di complimenti a questa banda di pazzi che ci stanno seguendo. Qualcuno ricorda Piloti, che ti ricordi quando hai fatto Piloti? Piloti era molto divertente, molto era una serie tanti anni fa. Stancante, perché giravamo 4, 5, 6 sketch al giorno per 3 anni di seguito. Beh, abbiamo girato 510 episodi. Ma oggi come oggi metterei, sì, 510. Beautiful. Metterei la firma per girarne altri 510, perché era divertentissimo. Io entrai con i capelli neri, uscivo con i capelli bianchi. Esatto, sì. Sono entrato che era giorno, siamo usciti che era Harry Fonda. Sì. Senti, invece Angelo, Nicola, anche a te tanti complimenti, e ci ricordano che è Stavros. Stavros era, sì, Stavros lo chiamava così lui, no? C'era questo modo. Qui abbiamo tantissima gente, vabbè, complimenti dappertutto, un'altra poesia, bravi, grande Max in tutti i sensi, poi parleremo con Max, la voce riconoscibilissima di Angelo Nicota, a parte i cartoni animati, però insomma tu hai fatto l'altra serie bellissima, hai fatto anche Al Pacino, sei riuscito a doppiare una volta in Jack. L'ho fatto solo una volta, sono riuscito a farlo in Jack and Jill. Vabbè, Jack and lui Jill. È, non è male, Lui Al Pacino? Sì, è caruccio, no, non è. Beh, direi. Devo dire che poi il bravo Giannini, devo dire che è copia e incolla, ci sta. Sì, ci vuole una voce rotta così, per però carità. Sopra, Cioè, a Amendola non c'entrava niente vocalmente, ma che gli odi a quella personalità che aveva Ferruccio? Beh, lui aveva questa. Ci stava. Questa, ci stava. Poi ritoppiava tutti e tre quelli, sì, importanti di allora, no? No, perfetto, Stallone, Hoffman. E Hoffman, quindi insomma, voglio dire. Tu quanti film hai doppiato non hai mai segnati, non ti ricordi? No, ma credo tanti, insomma. Io volevo lì dove era, leggere una cosa che non so se mi hanno. Sì, c'è sta qui come. No, non questa. Me la date la lettura di. Eccola. Dove sta? La lettura sua, quella che abbiamo deciso. Non c'è. Dammi un minuto. Chiedo scusa, dammi un minuto, è tutto in diretta. Questo è il bello della diretta. No, ma è meraviglioso. Ognuno degli amici attori doppiatori viene e fa una cosa al contrario della propria voce. So, Rodolfo Bianchi è venuto e ha letto le istruzioni della lavatrice. Giù Pizzo con la voce sensuale, Sassuolo Lazio, che sembrava che avessimo vinto 3-1, noi invece abbiamo perso. Però con quella voce era straordinaria. Chi era Gasman che leggeva il menù. Il menù era straordinario. Primo, sì, fettuccine, funghi, porcini, prendese. Ma sai, quando uno riesce con la propria voce ad essere evocativo, veramente vuol dire quello che vuole. Anche perché dalle analisi fatte in questa trasmissione con il grande Fussi abbiamo capito, togliendo le consonanti ai politici, studiando il diagramma vocale di queste persone, che poi l'8, il 10% è il concetto, il resto è corpo e voce. Cioè, di una persona tu segui il 10% è il concetto che segui, il resto è veramente la comunicazione verbale e non verbale, ed è vero che è così. Ed è pazzesco, infatti è inutile parlare troppo poco. Che stai facendo adesso, Angelo? Adesso ho finito, esce come dicevo prima il 25 questo Ben-Hur, e quindi te fai Ben-Hur Morgan Freeman, che non ha parlato con Non ha voluto parlare con Max. No, però non è che non ha voluto parlare, lui ha dato proprio indicazioni ai suoi, diciamo, di non fare foto, ma forse perché è invecchiato, non vuole farsi vedere com'è. Giustamente, insomma, stiamo parlando di Morgan Freeman, non è Pizza e Figli, capito, come si dice a Roma. Lui non voleva essere importunato mentre mangiava, anche perché poveraccio lavorava tutto il giorno, quindi quando stava lì voleva stare tranquillo. È giusto, lo fa, succede anche a Peppino Grigliardi Nicola Di Bari, tanti altri. Come no? Però succede spesso a Nicola. Io ci tenevo particolarmente perché insomma Morgan Freeman non è mai capitato tutti i giorni. No, a me mi era capitato Mel Gibson, che mangiava vicino a me quando io conducevo Buona Domenica. Lui stava girando The Passion. Sì, ma meraviglia. Ci siamo guardati, ma niente, non hai avuto coraggio di. No, di, lui però emetteva dei suoni con la bocca e con a posteriori, perché dice gli australiani sono un po' così. Però mentre si mangia, accompagnava, sì, accompagnava il gradimento del cibo con dei suoni del proprio corpo. Insomma, insomma, non vorrei che mi denunciasse, ma credo di no, perché lo facevano tranquillamente. I suoi collaboratori hanno detto: no, no, ma si usa. Che poi è stata una delle ultime volte in cui ho desiderato fare una foto con qualcuno, perché adesso non mi succede neanche più. No. Cioè, quanto è passato dalla lavorazione di è un anno e mezzo? Un anno? Il film che hai appena di Ben-Hur, Ben-Hur. Un annetto, no? Un annetto almeno, hanno girato tanto loro. Abbiamo finito 6 mesi fa. Sì, no, ma meno. Io già da 6 mesi fa non me ne frega più niente di fare le foto con nessuno, insomma, si cambia nella vita, no? Certo. Io, anzi. Vabbè, però è sempre un piacere. Allora, io voglio far leggere questa cosa ad Angelo Nicotra, anche con una musica romantica, se il nostro grande tecnico, che io saluto e ringrazio, ovviamente Mauro Meconi, gli autori della Mauro trasmissione. Meconi, che meraviglia, che bella persona, grazie di essere intervenuto. Grazie a voi, grazie. Ci sono dei nomi che si prestano per rispondere. Mauro Meconi, Meconi. Manca una vocale, sembra qualcos'altro, ma comunque c'è. E Alessia Navarro, la capo progetto, anche lei attentissima, Rachele New Entry come redazione, e Valerio, visto che la Roma gioca alle 20:30, lui tranquillamente il 20:45. Allora io, siccome la Roma gioca alle 20:45, la pizzetta c'è sta tutta stasera. Sa che succede. Anche Biretta, dice Valerio. Stiamo diventando nazional popolari anche goliardici. Molto. Allora. Hai fatto bene, perché io sto tornando. Eccolo, Pippo Nazionale. Allora, io do questo foglio, lui non lo sa. Musica romantica intensa. E la voce più bella che hai, romantica che hai, per leggere tutto questo. Ti prego, non cercare di studiarlo al volo, leggilo e basta. La Peppina fa il caffè. Ecco fatto. Hai capito? Fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, mezzo chilo di cipolle, 4 o 5 caramelle, 7 ali di farfalle, e poi dice: che caffè. Il caffè della Peppina non si beve alla mattina, né col latte né col tè. Ma perché? Perché? Perché? La Peppina, drammatica, fa il caffè. Fa il caffè col rosmarino, mette qualche formaggino, una zampa di tacchino, una penna di pulcino, 5 sacchi di farina, e poi dice: che caffè. Il caffè della Peppina. Accettazione. Accettazione. Sì, accetto. Il caffè della Peppina. Leva le lacrime. Non si beve alla mattina. No. Né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? Sei ironico, sei ironico. Non l'ha ancora finita. No, non l'hai ancora finita. La devi finire. La Peppina fa il caffè. Fa il caffè con pepe e sale. L'aglio no, perché fa male. Non essere ironico. L'acqua sì, ma col petrolio. Morgan Freeman. Insalata, aceto e olio. Quando prova col tritolo, salta in aria col caffè. Ma perché, perché, perché? Ma il caffè della Peppina non si beve alla mattina, né col latte né col tè. Ma perché, perché, perché? Perché ce lo chiedi a noi? Il caffè della Peppina. Va bene così. Non si beve alla mattina, va bene, né col latte né col tè. Va bene. Ma perché, perché, perché? E quando Morgan Freeman si incazza, ragazzi, È così. Posso garantire. Ma è fantastica questa cosa che hai fatto. Ma tu dovevi però l'autografo, però. Ma mo io vengo da te, ma che me frega più ormai? Io dopo vengo da te a farmi fare l'autografo. Con la voce, com'è? Con relativa foto. Come può farla invece qualcuno dei tuoi, visto che tu. Ma allora, io c'ho un problema. Innanzitutto che non mi sento molto bene in cuffia. Puoi alzare il non mi sento il brilliance. Ecco. Senti. Sento la mia voce molto velata. Spero di non essere io che non so così. Non sei tu velato, sei perfetta. Tu dici che non sono velato, ma io mi sento molto velato. Allora, vediamo un po'. La Peppina fa il caffè, che possiamo fare? Beh, il grande Califfo, vabbè, quello lo facciamo dopo. Insomma, a parte che tu sei un attore, e quello lo urlerò. Adesso rimaniamo insieme io e te per un paio di blocchi. Che dovete fare? No, rimaniamo con te a parlare un po' di Max, che è attore, prestato alle imitazioni. Prestato alle imitazioni. Tu feci. Allora io ribadisco. Esatto, ma lo dico io, non lo devi dire tu, perché tu sei un attore. Io sono un attore. Prestato alle imitazioni ogni tanto. Perché c'è una voce duttile e per cui io ho una voce duttile per cui mi diverte, no, a fare Albertone, per esempio, io lo facevo, perché mi veniva proprio, quelle sono contaminazioni, non sono imitazioni. Poi con gli anni, sordi, con questo, è pazzesco, sei l'unico che riesce a fare sordi, questo reflusso gastrico che mi ha velato la voce, perché si sono bruciate le corde vocali. Guarda, allora l'altra settimana, la prima puntata, è venuto il grande Cossu, che è un grande vocologo, chirurgo della voce, ecco, ci capisce veramente. Cossu. Che devo fare con Cagliari, mi pare, Cossu. Sì, giocava Cossau giocava, ed è straordinario. Ti metterò in contatto con lui, e vedrai che risolverai pure questo perché problema. Perché tutte le voci che diciamo che hanno questi toni medi riesco a farle, ma se devo andare sul cavernoso, come hai fatto appena tu con il grande Morgan Freeman, io non ci riesco sì, più. Sì, ma per esempio Sordi è cavernoso, ma lo fai perfettamente. Sordi lo facevo perfettamente, ora non mi viene più. Adesso l'hai fatto, accennalo, vai. Ma non era uguale, perché vedi che non viene giù... Non vado giù, ma è la caratterizzazione che arriva. Però tutta. A me serve quando c'ho il timbro, che io sto bello squillante. Allora, hai fatto l'analisi delle corde vocali? Noi, sì. E che ti dicono? È che visivamente stanno a posto, però basta. Io so che è quello. Benissimo, lo risolviamo. So. Guardi, mi prenda. Allora, per esempio, una voce velata riesco a farti. Rispoli, per esempio, è velato, solo toni medi, quindi la peppera fa il caffè con la cioccolata, poi ci mette la marmellata, che meraviglia, mezzo chilo di cipolle, insomma, questa viene bella. Per esempio, pure Califano c'ha una voce strappata. La vista, per cui... non si beve la mattina né col latte né col caffè, ma perché questo è chiaro. Ma poi tu canti anche, perché vabbè, con questo io parleremo canticchio, dopo canticchio. Vabbè, noi ci fermiamo prima sono che la gente capisca sì. quello che sappiamo fare realmente. Un attimo prima ci fermiamo, per cui vabbè, quello ne parliamo. No, dimmi un po', vado da Cossu, che io dico? Dopo lo chiamiamo, in diretta. Prossimo blocco chiamiamo, vediamo se è in diretta. Te facciamo fare un'anamnesi delle chiamiamo corde anche Memore Migi. Se c'è il numero, adesso andiamo in pubblicità. Chiamiamo Memo, ti tenuto. Perché guarda che Tony sembra molto anche Jane. Lo chiamiamo Memore Maggi quando abbiamo fatto lo sketch con la premiata ditta. Che io sono Memo. Anni fa io facevo l'imitazione di cosa, come si chiama il produttore, no? Come si chiamava? Ah, Cecchigori. Cava prodotto il film, no? Alla ricerca di Memo, che era Memore Migi, era scappato. E si no, non era la ricerca di Nemo. Io ho fatto quello. Che devo fare? Hai sbagliato, hai incassato una lira. Meno. Era venuto bene, il papà era contento. È bella, le puntate così, mi piacciono tantissimo. Tu lavori per radio, no Angelo? Sai che significa la radio? La radio ha degli altri tempi, ovviamente non permette la pausa lunga, perché altrimenti insomma è un buco, sembra che ti sei perso la frequenza, per cui devi parlare. E io sono che chiacchiera poco, devo dire la verità, insomma, ringraziando Dio la chiacchiera non mi manca. Siccome mi hai incastrato tante volte tu, ti è toccato pure a te. A parte c'hai sta camicetta rosa oggi, capito? Un po' anche non sapevi che andavi in diretta, allora... No, non sapevo, allora ho messo sta cosa rosa. La fanno anche da uomo, maglia rosa. Sei maglia rosa. Maglia rosa. Tutti tranquilli, perché stasera la vostra squadra gioca tardi, sia sì. Mauro, sia io, te, sia lui, sia Valerio, io sono l'unico che è tranquillo, ma la prima volta in vita sua. No, ma no, io lo sai che la mia vittoria ne ha sconfitta di un altro in tutti i campi, Angelo. No, ma certo. Però il piacere di incontrare, io devo dire che il doppiaggio, come il teatro magari, è uno degli ambienti più meritocratici che io conosca, insomma, lì se non sei bravo è il piacere di incontrare. Io certe volte vado anche mezz'ora prima al doppiaggio la mattina, per cui alle 8:30, e mi faccio delle belle chiacchierate con i miei amici colleghi, poi ci buttiamo dentro le sale al buio, ma è piacevole veramente condividere questo. È difficile straparlarsi dietro, sì, uno si può prendere in giro, per verità di Dio, quello è la regola numero uno, soprattutto quando io vado del lunedì e non ho vinto, ma è quello che capita spesso. Però la cosa bella è che trovi dei grandi professionisti. È sempre la meritocrazia che tu dicevi poco fa. Sarebbe la vittoria d'esta nazione. Un in tutti po' come i campi, il teatro, no? Esatto. Se non te lo meriti, alla fine l'applauso, insomma, non arriva. Parlando di doppiaggio, è vero che cedete i diritti del vostro lavoro agli americani per sempre? Oddio, no. Ma non mi risulta proprio. No, noi firmiamo dei diritti eterni quando sono dei cartoni animati internazionali, dove i tuoi figli e i figli dei tuoi figli non avranno nulla a che pretendere con te quando sentiranno, non so, l'era glaciale, Diego, il gioco di Diego, o il pupazzetto di Diego, o Mr. Potato, eccetera. Mr. Potato. Noi firmiamo dei diritti eterni, c'è scritto proprio Eternal Rights. Quello sì, ma non diamo i diritti della nostra. Cioè, da questo punto di vista, sì, ci diamo. Avrai il mio corpo, diritti. Ma non la mia anima. Esatto, la voce è sicuramente. Pino Stavros nella vita era il fratello di Savalas. Era il fratello Stavros. Ma infatti adesso, pure, ripensandoci, era somigliante a lui. Vedi quante cose Stavros, sanno. Vedi, ma sanno tutto, No, no, no, ma poi qui Radio 24 è sempre qualcuno che sa tutto. No, ma non è Savalas, no. E Telly Savalas aveva un attendente, lui era un, sì, un commissario, mi pare. Io chiamo Savalas, no, tenente Kojak, lui era, aveva una specie di brigadiere attendente che era Stavros, che, sì, lui chiamava poi in modo anche imperativo. Sì, Stavros, così, sempre anche un po' annoiato. Ma adesso cerchiamo anche, adesso andiamo in pubblicità e, a parte parlare con altro dei nostri ospiti fuori onda, visto che c'è questa straordinaria diretta Facebook, ve la ricordo. Il numero di telefono è 349-238-6666, numero SMS, sentite come sto, 800-800-2400-24 per le dirette, non ridere, Valerio, perché sei ripreso e allora la gente capirà che faccia c'hai e c'hai poco da ridere. E allora rimanete con noi, Radio 24, Voice Anatomy, a tra pochissimo. Voice Anatomy. Siamo tornati in diretta a Voice Anatomy. Per chi ci sta seguendo su Facebook sa che durante i momenti di pausa ci sono dei ragazzi che hanno risposto, tanti devo dire, tantissimi, alla nostra richiesta se volevano partecipare e per essere sentiti da dei professionisti che sono di passaggio sempre in questi microfoni. Abbiamo scoperto adesso una brava giovane professionista, perché lei è professionista, anche dilettanti, accettiamo tutto. Prendiamo ovviamente tutto. No, prendiamo tutto. Accettiamo per dare una possibilità alle persone di cimentarsi, magari, io credo nel futuro. Ma io sono sempre dell'idea che più gente brava c'è intorno, è meglio per tutti, no, Max? Tu facevi anni fa uno sketch molto divertente in cui al provino di doppiaggio uno parlava tutto tipo Tony, parlava tutto così, diceva va bene, va benissimo, era per i cartoni animati, torni domani, dice no, domani non posso venire, comprai gli scarpe con mia madre, era proprio così, è uguale, perché queste poi sono tecniche, perché anche lo facevano con Ciufoli che recitava, reciti, la prego, questo è un problema, dico bello questo intuito, va bene mi piace, come si chiama? Mi chiamo Antonio, certo. Era identico, era questa, quello. Funziona comunque. Tortora, lui ha cominciato a 5 anni e tu? Io ho cominciato a 5 anni perché tu sei più grande. No, vabbè, ma poi in casa devo dire che c'era mio papà che faceva le voci, anche lui registrava col Super 8 e si divertiva a fare i tre porcellini. Però non era un professionista, non faceva, no, questo. Però parlavano tutti così, i cartoni animati. Dove andate, maledetti? Venite qui! Ah, aiuto, aiuto! Faceva, e lui faceva tutte le voci. Faceva tutte le voci, noi bambini. Tutti poi contenti, dici che uno da grande si droga, e poi vabbè cantava, faceva varie cose. Mio fratello è un grande cantante, mio fratello è un grandissimo cantante. Fratello, sì, è vero, c'ha l'intonazione assoluta. Ma dai, è certo, perché io invece l'intonazione la devo cercare tecnicamente, no? Invece la prendo come, la cerchi l'intonazione della... L'intonazione tu ti accorgi che non vai proprio dritto, non entri, sì, proprio che scavi la nota, sì, quando sei, e hai tutto il tempo tecnicamente di non far accorgere il tuo uditore, perché solo tu lo sai, l'hai capito, mm-hmm, e la becchi, la ribecchi tecnicamente, perché c'hai l'orecchio e riesci a ribeccarla. Chi c'ha l'intonazione assoluta ci va dentro senza pensare. Vedi, bello. Renato Zero c'ha l'intonazione assoluta, e quindi dal vivo sono stratosferici quelli che hanno l'intonazione assoluta. Chi non ce l'ha ogni tanto, anche se è un bravo crooner, un bravo esecutore, anche un bravo musicista e autore, la deve comunque cercare. È una stonatina ogni tanto la chiappa. E come hai sentito a quel punto che non era più un gioco? Cioè, quando hai deciso, quando c'è stato lo sliding doors, quando è cresciuta? Ma innanzitutto quando ho capito che non sapevo fare nient'altro. Non è poco questo. Che non è poco. E poi perché mi divertivo troppo. Cioè, ho provato a fare altri mestieri che mi disintegravano, mi intristivano. Tu sei laureato in architettura. Sì, ma non ero capace, non era roba. Sarebbe successo venendo al fine mondo. Non sarei proprio stato capace. Io, ecco, l'unico rimpianto. Sì, ci ho messo 10 anni. L'unico rimpianto reale che ho è di non aver potuto fare il conservatorio, perché lì insomma era integrato. Però suono il pianoforte da 40 anni. Ah, per cui suoni anche. Sì, sì. Come Piero Angela è un bravissimo giocatore. scusate, sono attore di jazz, di pianoforte, e fa anche dei concerti in tutto il mondo. Come Woody Allen, praticamente sei. Come Woody Allen. Woody Allen suona il ciuffolo. Esatto, il clarinetto. Il clarinetto. Che non lo suona benissimo, però. Ma, insomma, suona ma nessuno c'ha il coraggio di dirlo. Ma come fai a Woody Allen? Come fai a Woody Allen? Lascia bene, roba per te. Ma allora. Non sei buono. No, e io non sono bravo. Perché gli americani fanno questo? È lui, perché l'indecisione, l'insicurezza che gli ha ridisegnato addosso l'Oeste Lionel. Quello volevo dire. Sì, l'ha fatto, l'ha inventato lui. È andato in sovrapposizione perché lui è l'unico. Se tu fai il doppio audio in tutte le regioni del mondo, le nazioni del mondo, e senti che quello che gli ha dato veramente lo spessore, e anche Woody Allen lo riconosce, è Oreste Lionello. Infatti, quando dirigeva lui Omaro Vespini, il protagonista di un film di Woody Allen, parla come lui, ma tu tartagli, se stai 9 ore al giorno a parlare in quel modo, che non è un tartaglio, è un allungamento delle vocali. Però adesso ho notato, perché io ho un televisore che mi va in automatico sulla lingua originale, ho notato che c'è una recitazione americana, per cui veramente fanno sto tartagliamento iniziale, gli piace proprio a loro, gli piace. No, Angelo, quello che si trova nei film, c'è sempre questo, il metodo di Strasberg lì dentro. Voi insomma siete dei grandi osservatori, perché comunque ce li avete sempre davanti, no? Guardano dall'altra parte. Cioè non guardano l'interlocutore, guardano sempre dall'altra parte, nel vuoto, in più, e più fanno io credo che sempre da là guardano. Però anche quando ti minacciano. Quando ti minacciano. Ti dico. Capito, è questo. Cioè, noi non lo possiamo fare qua, capito? L'italiano deve io devo parlare negli occhi. Certo. Ti devo partire di testa io. Io devo partire da capoccia. Per cui insomma poi c'è stato, quando hai preso, dico, so fare solo questo. Non è che lo posso decidere io che so fare. L'ha deciso già la gente. Quando gli altri ti fanno capire che gradiscono, tu continui. Che comunque fai. L'hanno deciso anche coloro i quali ti hanno ascoltato, ti hanno visto. Insomma, infatti, io poi mi sono gratificato col tempo. Vuoi che leggo un pizzico del tuo curriculum? No. Io ho amato il mio mestiere. Ma anche la gente ha amato il fatto che tu ami questo mestiere. Perché c'è sempre poi spiazzato, non è che hai fatto sempre la stessa cosa. Ecco, quella è una cosa che mi piace molto. Anche se ambirei, come ti dicevo prima, internos, quella è la cosa che piace. E fare un po' più di cinema, perché soffro molto a non farlo. Tu, Angelo, invece, quella è la cosa che preferisci di più? Teatro, lo ami? Non puoi mai dire, doppiaggio, io sto bene là, buio. Io sto bene lì, pigro, sto lì dentro tranquillo. A me piace, poi lo ritengo un bellissimo lavoro. Bellissimo mestiere, sono d'accordo con te. Il dottor Ricotra fuma lei? Sì. Quindi c'è la pausa sigaretta tra una... e te la riprende. Adesso fumiamo. Adesso c'è la trasmissione. Durante il lavoro, durante il lavoro, sì. Diciamo che una pausina, caffè, sigaretta ci sta. Per i fumatori, insomma. Certo. Quelli più fortunati come Pino, che non fuma più. Adesso quanto tempo è che non fuma più? Sono 3 giorni! Va bene. Avete la deformazione professionale, la gagga nasce subito. Ti piacerebbe più fare l'attore in un film o un regista, Max? Tutte e due, se potessi, perché io dei miei sketch sono sempre stato autore di te stesso. Al teatro mi dirigo pure. Se riuscissi a farlo anche al cinema, mi eviterei di fare 3 film invece di uno, perché molte volte accade che tu in scrittura c'è un film, mentre i giri ne fanno un altro, e al montaggio diventa un altro ancora. Invece l'hai scritto te fai la regia, sai che quello è e quello rimane. Chi sta parlando è Max Tortora, e vicino a me è sempre Angelo Nicotri, giusto per radio ricordare sempre, perché magari uno si attiva. Ricordo che siamo anche in diretta su Facebook, ma grazie Mauro che me lo ricorda. Da una parte c'è un Mauro che mi marca stretto, dall'altra parte c'è Alessia che mi corregge sulle domande, e poi c'è Valerio che ride e basta, non capisco neanche perché sta lì. Rachele è l'unica persona che sta al posto suo in maniera tranquilla. Per cui soffri questa cosa, ma soffriva un'altra cosa. A 14-15 anni anche un amico comune come Claudio Ferraro, grande coreografo, ha detto: fagli la domanda perché stava diventando all'altezza. 14-15 anni, cosa facevi per evitare di diventare così alto? Bisogna dire che sei alto 1,97. Allora, diciamo che Claudio Ferraro è un grandissimo coreografo, amico in comune. Ho lavorato anche con il fratello di Angelo. Con il fratello, sicuramente. Ci abbiamo lavorato pure io. Giancarlo ha fatto tutta la varietà degli ultimi anni, che c'era sempre lui. Insomma, che facevi per evitare di entrare alto? Io c'avevo un letto di quelli che si tira giù dalla parete, che era molto scomodo, perché insomma tutte le sere devi tirare giù sto letto e la mattina dovevi ritirarlo su, e c'avevo una sbarra di ferro al posto della testiera e una al posto della pediera, quindi io attaccavo la capoccia dietro e i piedi li puntavo davanti per non crescere durante la notte. No, vabbè. In più mi misuravo tutti i giorni. Ma non è successo, a parte un forte mal di testa? No, ma io, ragazzi, ho sofferto molto l'altezza, perché tu immagina che uno che voleva fare l'attore improvvisamente una mattina si sveglia, vede i piedi suoi lontani 3 chilometri e dice: "Mondo, vado io, chi mi fa lavorare più a me?" Rischi di diventare un carattere. È vero che cosa io non volevo. È vero, non che volevo. L'altezza può crearti dei... Tu volevi fare un primo attore, sì, un 1,80. Ma non, sai che c'è? Che se sei 1,85 sei alto, se sei 1,97 rischi di andare a fare l'alto nei film, come il grasso nei film o il secco nei film. O la cosa bella che mi hai detto prima, cosa porta la gente quando sei così alto? Poi? Tante cose, innanzitutto il diritto al tu. Non si capisce perché a uno alto io vedo a dir tu. Ammazza quanto sei alta, ma io non te conosco, dammi che lei, scusa. Ma chi te conosce? Ammazza, aspetta, poi a Roma ci aggiungono pure una parolaccia che non posso dire perché no, siamo a Radio 24. Ammazza quanto sei alto. Guarda, qui Cruciani ci ha sdoganato a tutti con la zanzara, certo, qualcosa. Senza contare gli sport che mi sono stati preclusi, perché a me non mi hanno preso a fare il subacqueo perché toccavo. Non è una cosa da poco, io sono rimasto malissimo. Cioè, lei doveva tocca, che cazzo, che piscina lei. È bellissimo. Lei sta fuori con la mano, fai snorkeling. Cioè, i pesci fanno snorkeling con te. Cioè, sono loro che ti vengono a cercare. Una volta lei tocca, è bellissimo. Sì. Poi delle domande intime: chi è così a casa? Chi è, vero? Ma che... con le donne come fa? Dico, portami tua sorella che ti faccio vedere cosa fa. Oddio. Questo è con le donne come fa? Ma che domanda come, stesi. Poi vabbè, c'è la solita domanda meteorologica: che tempo fa lassù? Esatto, quello sempre. Anche qui non posso dire la risposta, che fu coniata da mio nonno, che era un bene 93, poi però cioè, gli facevano domande tutto il giorno. Che diceva nonno, dillo. No, tanto. Non si posso, lo posso dire? Ma sì, ma se poi mi denunciano? Ma no, me la prendo io la responsabilità. Che tempo fa lassù? E nonno faceva: piove quando c'è piscia tua sorella. Cazzatura. Cioè, rimanevano tutti molto male. Sì, è brutta, era i primi 900 questa battuta. Questa valeva, cioè, all'epoca rischiavi veramente la denuncia. Tu immagina nel 1900 mio nonno, che era 1,93 m, era come oggi essere 2,45 m. Esatto. In più lui era il terrore di un gestore di Luna Park, perché vinceva tutti i pesci rossi. Perché i pallini arrivava, certo, era l'unico che ci arrivava. Che se non sta a fare i gesti, Valerio, per darmi i tempi della stregiamo chiusura. Pochino, ci no, stava no, per me no, per dirmi quando chiude il blocco. Okay. Adesso devo. Ok, va bene. Allora saluto però Angelo Nicotra. Ok, già se rimane. Angelico rimane ancora. Adesso forte, c'è venuto a raggiungere anche Frank Merenda, che lo facciamo entrare comunque, che gli ospiti si stanno alternando, sono tanti. Ma io con Frank Merenda ci parlo volentieri. È vero, nome e cognome sembra un grande idolo americano. Sì, lo è, però in grande. Michael, fai una cortesia, parla con Frank Merenda, dici che ce lo mando io. Se possiamo parlare con Frank Merenda, ci mangio. Lo conosco, io vi ricordo che è un mio graditissimo ospite e se ne sta per andare. No, fermate Merenda. No. Scherzo. A tra pochissimo con Voice Anatomy. A tra poco. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno. Per chi ci sta seguendo su Facebook sa che sta succedendo veramente qualsiasi cosa, la trasmissione è una trasmissione, ma è divertente, è bello così, perché non perdiamo di vista ovviamente il tema principale, che è la voce, Voice Anatomy, e non perdiamo di vista i nostri ospiti. Io ringrazio Angelo Nicotra per essersi accomodato su queste poltrone, avermi fatto compagnia. Che ringrazio. Grazie. Tanto no, te. No, tanto Angelo, tanto noi ci vediamo di lunedì. Va bene, ok. Con sorriso. Angelo Nicotra, signori e signori. Ciao Angelo, grazie. E si accomoda al posto di Angelo Frank Merenda, anche se non è proprio il momento del tutorial, che sarà fra poco. Invece adesso c'è questa osmosi in questa trasmissione che la rende anche molto ricca, grazie anche alle idee dei nostri bravissimi autori. Allora, Frank, caro Max Tortora, sì, è veramente, a parte il nome che sembra e la faccia che sembra un po' Ray Liotta dei Goodfellas, un po' lo ricordo. Allora, Ray Liotta è uno dei miei attori preferiti. E che io non ha fatto una foto manco lui con te. No, ma io non avrei tanto voluto lavorare con Ray Liotta. E dove? In un film americano. Ah, non è che te mi capito. Piace fare i film americani, mi piace, diciamo. Tu mi piace. Io ho una passione proprio per Ray Liotta, non è male, c'è questa faccia da poi... cattivo, sì. Ma molti hanno avuto il momento d'oro e poi in America si è un po' perso. Sì, sì, sì, sì. E lui somiglia un po'. Ma la volete finire? Non è vera questa cosa? Ma come no? Ma no, il nome e cognome, perché sembra Frank Merenda. Pino ha cominciato a lanciare questa leggenda metropolitana, lui assomiglia a Ray Liotta, ho capito, ma non è vero. Ma mica ti ho detto che assomiglia a... No, capito, mica mi hai detto così. A Giorgio Pesci, cioè Ray Liotta. Come si dice a Roma, è considerato un figo Ray Liotta. Esatto, a me e a Max si avvicinano molto a sì. Gianni e Pinotto, però Zecchio e l'Olivaro, come si dice a Roma. Parlavamo con Max, tu stai seguendo dietro le quinte questa avventura di oggi folle. Ma io mi stavo ammazzando dalle risate, non è che stavo anche seguendo noi, le risate. Anche noi qui. Devi sapere che Grande Franchi da oggi comincerà per Radio 24, visto che è proprio casa sua da questo punto di vista, perché è il più grande formatore di venditori del mondo. Universale, no, della galassia. Intanto lo devi dire così, esagero. No, ma è così, io ho toccato con mano il tuo lavoro straordinario. Quanti, ma non sono seguaci di quelli che tu hai il lavoro costretto. Hai toccato con mano. Il lavoro, Franchi. Il lavoro e migliaia di persone, decine di migliaia di persone ogni anno ti seguono e continuano a seguirti perché hanno successo nel loro campo grazie ai tuoi consigli. Per cui l'idea è venuta, invece di venire ogni tanto ospiti a dare un paio di dritte, e poi comunque uno che attacca dritto per dritto non è che le manda a Dio. Io attacco la pipa, ho rischiato denunce su denunce perché poi sono io che gli do la voce all'interno di Radio 24. A me che me frega, io scappo. Attenzione alla fine. Che è entrato un altro uomo calvo, Vaporitis, che mi ha le spalle. Tra l'altro non so quanti lo sanno, niente, di domenica. Bello, grazie. Anche Vaporitis, quanti lo sanno, è un grande imitatore, un grande imitatore. Dopo c'è. Sì. Ma come? Spettatore. Ma volete, non sono al suo livello. Insieme a Primo Reggiani, a Matteo Branciamore, si esibiscono in delle cose molto divertenti. Primo... Ma sei fuori? No, siete un gruppo. Detto Primo? Primo Reggiani. Reggiani, quest'attore che... Capito? Noi facciamo colazione tutte le mattine insieme con Primo Reggiani. Al bar Gianicolo di Monteverde. Oppure su Via Colli Portuense. Stiamo a fare pubblicità. Sempre... Speriamo che due cornetti ci regalano a questo punto. Ma sai che poi ho notato che c'è una concentrazione di attori e gentaglia varia. Esatto, a Monteverde. È una roba impressionante. Però cioè, tu stai a Monteverde. Io nato, cresciuto e probabilmente ci finirò pure. Io pure ho detto, sono una cazzata col cuore che prima c'era nei nasci, adesso c'è l'Alzheimer. Per cui credo che ci morirò pure. Siamo una domenica la c'è Luca Barbarossa, Alex Britti che era papà, era il macellaio. Scusate, il più importante sono io Nanni. Un cappuccino e un cornetto, è vero, se c'è vegano. Suona per me o cornetto vegano. Ma pure il cornetto vegano, no? Vabbè ragazzi, così. L'altro giorno uno non l'ha capita questa canzoncina, no, io ho cantato, mi guardava e dice chi è sto matto, che certo, è antica, solo io la posso ricordare. Te il quartetto cetra me la ricordavate. Un po' sorride che mi si è rotto un dente. Ah, io c'ho più capsule io da Anasa in bocca, stai tranquillo. Era una trasmissione che era arrivata a 200.000 ascoltatori, Radio 24, la talk radio più seguita, ha vinto la trasmissione radiofonica dell'anno, da il oggi premio, per me Radio 24 finisce qui. Me ne va. No, lascio riposare Paolo Vaporitis, poi starà con noi pure dopo, infatti. Come te va? No, te ne vai, no, prendi un caffè. Questo blocco stai qui che è un blocco in confusione, un blocco renale ormai è diventato. Un blocco con vera Empals questo qui. Qui c'è della vera IMS oggi, perché non è più Empals, c'è. Scusate, in che orario andate voi? Noi dalle 14:30 alle 17 durante le partite. Ma sai che io però lo vedo tutte le mattine a fare colazione, ma ti giuro, non sto scherzando. Adesso non dico il bar perché sennò mi si dice che faccio giustamente pubblicità occulta, ma sempre Monteverde Vecchio. Anche Orlando, Roma non è, tu ci fai caso. Senti, Nanni, mi dai un bel ricornetto, Nanni. Chi era? Silvio Orlando. Ah, Silvio. E tanto lavoro solo qui, Margherita Bui. Silvio Orlando. Tonio Catania. Basta. Basta. sono quelli se filma siamo lei. Siamo sempre noi, più o meno. No, ma vabbè, non posso raccontare le mie vicissitudini con Nanni Moretti. Comunque, a parte questo, dicevo, volevo ci dire cacciano che... tutti. Ma tu non sei di Monteverde Vecchio, sei... tu sei svizzero. Sono svizzero. Che svizzero? Sono di Sassuolo, io sono modenese. Ah, Sassuolo, è vero. Che Sassuolo. Bello, Sassuolo, meraviglioso. Frank Merenda di Sassuolo. Belli quei garzoni svizzeri. No, novi. Comprate pure tu i garzoni novi. No, la pubblicità della cioccolata. E qui è così oggi. Capito, ma... tanto dopo c'è il tuo blocco e loro non il tuo blocco non si può sentire. Blocco... sembra un blocco renale. Io c'avevo il blocco. C'ho i calcoli, non ho capito. C'è il tuo blocco, arriva al medico. C'è il vero tutorial della trasmissione. Immagino. Che cominceremo a ovviamente rubricare la trasmissione, che già è rubricata in qualche modo. Sì, sì. Oggi è derubricata, perché questo è messo due microfoni. Due. No, neanche ma... i presidenti americani. Ma Max non aveva detto che voleva smettere di fare le imitazioni prima, ci ha attaccato la pippa di là. No, io sono un attore serio, non faccio più imitazioni, e questo lo dico da anni, però non c'è niente non da fare. Non ti crede nessuno? Non mi credo. Sì, ma pure io ogni tanto... Ho capito, ma come si ferma? Attacca la pipa pure. Lo so, ma attacca la pipa divertente. È quello, ma è divertente quello. Pure io, a me piace, no? Quando doppi film drammatici. Ma lui istica, che finalmente stuzzica, c'ho prematura. C'ho una faccia di quelle serie, io d'altronde non lo posso fare. Questa faccia la mela cotogna, tutti si aspettano prima o poi a dice la cazzata, la dice, non è vero. E io invece ho cominciato un monologo dei Masnadieri di Schiller. Io l'altro giorno ho fatto un provino per un personaggio che non era comico, e il fonico e il camera mi hanno guardato e ho fatto ridevano, dico ma mica già ride. Sì. Comunque io posso dire una cosa che suggerirei: la terapia del buon tortora per tutti quelli che soffrono di un pizzico di depressione, depressione o di giramento quando ti svegli male la mattina. Io mi vedo il tuo pezzo mentre fai Celentano nel Rugantino e ti giuro che mi togli la vita, sì, che mi sento male. Aspetta, ce l'abbiamo, ma ce lo fa fra di noi questo qua, senti che il microfono suo è, invece c'è un'altra impostazione, qui c'è Celentano che parla romano, è bellissimo. Ho beccato il peggio microfono, quanti siamo qua? 5? Sì, siamo 4. Vabbè, devo fare. Mandene un pezzettino un attimo. Ma ce l'hai davvero? Sì, ma guarda che noi ci abbiamo tutto. Abbiamo tutto, è meraviglioso. Oye, Agnapè, cerca di comportarti bene, non mi guarda Rosetta che... me devi ammazzare te, maestro T. Perché se mi ammazzi te, vinci il premio pontificio perché taglia la centesima capoccia. Bisogna cercare qua la mignotta che mi fa da testimone perché mi può salvare la vita. A meno che non muore il papa, siamo sardi, perché c'è la grazia. Oddio, sono arrivate 2000, io chiedo no, scusa. Ma chi me lo doveva dire a me che a 54 anni il mio cavallo di battaglia diventava Celentano Romano? Ci ma creduto deve mai. Essere, questo è come il dottor Vaporidis. Se fai un film importante, resti schiavo di quel film, ma ringraziamo Dio che resti schiavo, almeno ha fatto questo, poi ne ha fatti tanti altri. Io tutte le mattine quando mi sveglio, la sera prima di andare a dormire, ringrazio notte prima degli esami, ringrazio Venditti, certo. Ringrazio Brizzi, ma certo, ringrazio ma fondamentalmente, c'è un rosario con tutti quanti i nomi loro e li vado a ringraziare. Quello ti dà lo startup, poi è vero, la gente ti riconosce non solo per quello, quello ti dice, tu hai fatto quello è il tuo cavallo di battaglia, ma grazie a quello ne hai fatti tanti altri. Sì, però a me quando mi dicono, vedi quello che fa coso, mica mi piace tanto. Quello che fa coso, no, è ovvio. Mi piacerebbe per nome un cognome. Se tu pensi che ho doppiato i porno per 5 anni prima di fare il doppiaggio, normale. Ah, questa non la sapevo io. Sì, a Monteverde Vecchio non gira. Se no, io lo dico. Ci fai un provino per il doppiaggio porno? Al volo, ce lo fai un provino? Se tu pensi, veramente l'ho raccontato tante volte, era complicato. 9 ore al giorno a godere a vuoto, vedi per ventilazione al cervello, svieni. Svieni dopo 30 secondi, se tu respiri a vuoto. No, però aspetta, scusa, c'è quella roba dove sei tu accanto a un'altra donna che magari sta facendo la garzetta, e fa finta di godere davanti a immagini tristi. Esatto, tu dovevi doppiare l'italiano, c'erano i siti, non c'era il VHS, fantastico. C'era il cinema a luce rossa e c'era il cinema normale, per cui noi che cominciavamo dovevamo cominciare dall'altra parte, insomma, ed era soldi, ti davano anche dei soldi neanche fatti, io ormai dove sono passati 35 anni, neanche fatturati al volo tutti i giorni cash. Sì. È ovvio, era imbarazzante perché tu ti trovavi a godere con delle persone che non conoscevi e a dire delle cose veramente potenti senza farle. Però la domanda che si sono fatti tutti quanti dai 15, diciamo, fine 30, 40 anni, ma un minimo lì doppiando non ti viene via niente. Andiamo a prendere un caffè dopo il doppiando. No, anzi, al contrario, ti imbarazza tanto. Anche quando noi doppiamo dei film seri e c'è la scena d'amore, è imbarazzante far vedere te stesso nei momenti intimi, per cui a parte lì ti baci le mani riempi la bocca con la lingua, se devi fare dei suoni dove la bocca è occupata, insomma è parecchio imbarazzante. E con immagino. Le persone che non conosci quando eri poi giovane, poi si godeva anche a vuoto, non so, per mezz'ora si registrava un godimento, orgia brusio a vuoto, il famoso a vuoto godimento senza il film. Tu giravi intorno al microfono e godevi girando davanti alle spalle se c'era qualcuno dietro che camminava che non conoscevi, e c'era il film. Comunque che io... un'esperienza che insomma chiunque di noi vorrebbe almeno una volta nella vita provare. Qualcuno ha detto ma l'hai fatti tu? Poi no, si faceva, era un caratterista comico pure lì, per quello solo doppiati tranquillamente. Che poi gli americani non si rendevano conto di quello che facevano, perché si autoesaltavano ogni 5 secondi, dice oh my god, come erano increduli che stavamo lì a fare quella cosa. Noi invece ci credevamo, bella porcone, i nostri erano molto più oh mio Dio. Sì, erano consapevoli di quello che stavano facendo. Loro invece oh my god, magari si stupivano ogni 5 secondi che stavano lì. Bene, su questo devo chiudere il blocco per darvi appuntamento tra poco, e la pausa lunga questa. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, Voice Anatomy, sono le 15:47 primi e 35 secondi, e dura così perché la trasmissione non permette neanche una pausa a questo punto. Come ho detto poco fa, il momento è serio, non che prima non sia stato serio, insomma, ma volevamo riuscire a... era molto divertente. Riuscire a rubricare anche la trasmissione da un punto di vista di tutorial, lo diciamo sempre, e vogliamo cominciare anche a farlo in questo modo. Ho parlato con Frank e ho detto mi piacerebbe che tu ogni puntata regalassi una chicca, una pillola della tua vita, del tuo essere formatore di grandi venditori, e lui, essendo un caro amico, ha detto sì, facciamola questa avventura. Obbedisco, ho risposto. Sì, lo disse pure qualcun altro, ma adesso non mi ricordo chi. E cominciamo oggi a fare queste piccole video, visto sei seguitissimo, i tuoi podcast sono i più scaricati sempre, ogni volta che emetti un fiato, una sentenza, ti seguono, ma perché sei veramente bravo, l'ho visto in azione, abbiamo lavorato insieme, credo e spero che lavoreremo ancora insieme, perché il nostro lavoro non si sovrappone in nessun caso. Mi dovrai sopportare ancora per un po'. Ma magari lo stesso anche tu, ma sei brillante e ti piace il nostro ambiente, il nostro mestiere, e mi fa piacere il tuo entusiasmo per quello, sempre un bambino, anche se sei molto giovane. Cominciamo con questo tutorial. Da dove comincia questa prima lezione? Allora, la prima lezione secondo me potremmo partire sull'uso della voce, per esempio parlando in termini di trattative, quindi di vendita, per spiegare velocemente alle persone che ci ascoltano una grande differenza che esiste per esempio tra la scuola americana e la scuola italiana, okay, in termini di approccio con la clientela. E in Italia abbiamo molti problemi perché la maggior parte delle tecniche di vendita che sono arrivate, tra virgolette, insegnate nel corso degli anni, arrivano dalla scuola americana. La scuola americana ha una peculiarità che deriva dalla cultura nella quale nasce, dalla quale loro sono intrisi, che è una cultura di base della fiducia. Cioè negli Stati Uniti, i popoli anglosassoni tendenzialmente, come i popoli teutonici, per loro la fiducia è un punto di partenza se tu sei un professionista, e poi dopo chiaramente devi fare il tuo lavoro, devi continuare a guadagnare tutto. Da noi in Italia è il contrario, cioè noi partiamo con un'estrema diffidenza, e la fiducia magari, se sei molto bravo, è un punto di arrivo. Quindi molti venditori in Italia, molte persone soprattutto, che hanno, cioè, il loro startup all'estero, praticamente oltreoceano, eccetera, in cui si dice è la fiducia, io ho già fiducia in te, cioè tu sei innocente. Sì, di base loro hanno una presunzione di innocenza, l'italiano ha la presunzione che tu lo voglia fregare. Esatto, da subito. Da subito. Per cui non è male, vai, scusami. Sì, no, ma è proprio corretto, nel senso che da noi quindi il tessuto sociale rende la vendita molto più difficile in realtà. Io ho molti studenti, per esempio, che studiano con il mio sistema, e quando vanno a vendere negli Stati Uniti vanno all'estero, ma ti parlo di imprenditori molto importanti nel polo del lusso, vanno di là e per loro è molto più semplice vendere, certo, di continuo. Me lo dicono, al di là delle mie esperienze personali, lo dicono, perché se tu sai vendere un italiano, vendere negli Stati Uniti è come rubare le caramelle ai bambini. Certo. E questo vale non solo negli Stati Uniti, vale in Europa, Germania, Svizzera, cioè la gente lì di base poi te la devi giocare, cioè poi devi lavorare, cioè, bene, poi devi vendere il prodotto giusto nel modo giusto, per carità di Dio, certo. però di base non hai quello scoglio enorme che è il superare l'approccio con, tranquillo, la diffidenza. Non te voglio fregare, sì, di base ti sto vendendo una cosa, poi se ti serve bene, ma non ti voglio fregare, sì. E quindi cos'è che volevo dare in questa, esatto, mini pillola alle persone? Fargli capire che abbiamo dei problemi in Italia quando cerchiamo di applicare gli insegnamenti della scuola americana. Perché? Perché gli insegnamenti della scuola americana partono da un'autosuggestione. Cioè, se tu vedi i formatori americani, sono bravissimi, semplicemente da loro funziona così, va bene, perché la cultura è diversa. Certo. Okay, però partono e si caricano proprio, li vedi che si caricano emotivamente, no? Quindi no, tu devi credere tantissimo in te, nel tuo prodotto, che sei il migliore, vai, spacca. C'è, pensa... il film è bellissimo di David Mamet, che è americani. Sì, te la ricordi la scena, bellissima. Bellissimo. Ok, quindi da loro c'è proprio questo approccio estremamente per alzare il tono, no? Quindi per far arrivare il venditore molto carico, molto deciso, molto sicuro. E questa cosa là va assolutamente bene. Da noi è un grosso problema, quindi tutte le persone che fanno questo tipo di approccio e non lo controllano, vanno dal cliente troppo carichi. Cioè, nel senso, tu pensa in Italia, sì, okay, uno carico così. Buongiorno! Arrivederci. E poi slam, sì, la porta che si chiude. Sì, perché l'italiano come lo percepisce? Lo percepisce come uno, accendine sigaretta, cioè. Certo. È troppo in alto, no? E quindi il cliente tende a slamarsi. Certo. Lo diciamo in gergo tecnico, cioè non si aggancia al tono della nostra voce, al tono della nostra comunicazione. Beh, bellissimo queste cose, è vero. Beh, vedi, è uno studio antropologico, niente male, uno deve partire da questo. Fortunatamente la nostra capo che sta riprendendo adesso Alessia Navarro è laureata in antropologia, per cui ci permette ogni tanto di camminare all'interno, per cui questo è una zona importante, perché è vero, noi siamo basati su quella scuola all'inizio, cioè nasce così il nostro startup di formazione, sì, di venditore. Tu l'hai scardinato. Il lavoro che ho dovuto fare io in Italia è stato dover scardinare, partendo dalle basi sociologiche in realtà, cioè che cosa funzionava dell'approccio anglosassone statunitense e che cosa invece non funzionava con un copia e incolla. E non è che sia diverso, è che è diverso il contesto culturale, quindi le informazioni di base sono corrette ma vanno adattate al profilo psicografico, cioè alla psicologia delle persone che abbiamo di fronte. Che poi anche da noi c'è una grande differenza anche regionale, sì, di approccio. Assolutamente sì. Perché a quel punto c'è un approccio, nelle isole c'è un approccio, in Sicilia c'è un approccio, in Sardegna c'è un altro, sì, in Campania c'è un altro ancora, in Lombardia anche, allora, il Triveneto eccetera, per cui... Non è soltanto il dialetto, perché che è quello che può aiutare, anzi io vi dico sempre studiate l'italiano il più possibile. Allora noi abbiamo un problema, nel senso che in Italia soffriamo di bilinguismo, nel senso che la maggior parte della popolazione in realtà pensa in dialetto, soprattutto chi abita in provincia, e traduce in italiano quando deve parlare con le altre persone che non sono del suo paese. Quindi noi di base non siamo in realtà veramente un popolo, antropologicamente siamo più un insieme di 7 popoli che stanno insieme, quindi con culture e tradizioni diverse. Cioè, i francesi si sentono un popolo, i tedeschi sentono un popolo, gli italiani invece sono un'amalgama di 7 popoli che si sforzano, stanno cercando di sforzarsi dall'Unione d'Italia nello stare insieme. Ma un veneto non è esattamente come un siciliano oppure come un campano, cioè ci sono delle caratteristiche che per sono per cui tu nei tuoi corsi ovviamente cerchi anche di diversificare il modo d'approccio a secondo della c'è un'universalizzazione di tutto questo, globalizzazione anche questa. Allora ovviamente c'è un'universalizzazione dell'approccio di base, però ogni venditore in realtà deve personalizzare ovviamente quello che è l'approccio in funzione della propria provenienza e di dove sta andando a vendere. Per faccio un esempio sciocco, un campano che vende in Campania, un napoletano che vende a Napoli, deve fare il napoletano a Napoli, quindi la struttura del sistema di vendita è quella, ma tu non è che ti devi snaturare, quindi ti devi incravattare, devi parlare con l'accento un po' milanese, cioè perché no, non c'entra niente, non c'entra niente, okay? Invece per esempio se tu sei un milanese e vai a vendere a Napoli, devi, è diverso da essere un milanese che vende a Milano, perché? Perché il tuo approccio un pochino troppo rigido magari può dare qualche problema, perché più ti sposti verso il basso più l'approccio tende a essere un pochino più informale, più caldo, che non significa che diventa sbragato, che così come non significa che diventa completamente abbottonato al nord, però piccole accortezze che non le insegno io rimangono al buon senso della persona. Io stimolo semplicemente le persone a rimanere se stesse, quindi all'interno di quello che è uno schema tra virgolette universale dei comportamenti, sapere che fingere non è una cosa corretta, cioè essere eccessivamente incravattato quando non è necessario o essere troppo sbragato quando non è possibile perché il contesto non lo permette. Cioè io mi comporto in maniera diversa se vado a parlare con una persona e vedo che il tono, un piccolo imprenditore, e il tono può sciogliersi. Se sono davanti a un CDA di un consiglio di amministrazione molto importante, non è che posso fare, a meno che non arrivi dopo 2 o 3 ore il CDA a sciogliersi un po' di più, allora pacche sulle spalle ci si può arrivare. Assolutamente. Però sì, l'approccio è sicuramente sì, ma poi sai, magari sono 6-7 persone, ma lo stesso è un attore, lo stesso è più naturale, è più semplice, è più riesce ad entrare nel cuore delle persone, sono di fronte, perché si accorgono della verità di quello che stai dicendo. La verità si può raccontare anche in maniera falsa, per carità, per un attore falsifica se stesso sulla scena e rappresenta un altro, ma ti ci fa credere. Sì, sì. E allora, ma anche un venditore è un grandissimo attore. Noi raccontiamo questa cosa dicendo è verità detta bene, no? Nel esatto, senso che... verità detta bene, è perfetto. L'ho detta io, credo, questa sì. cosa, se non sbaglio. Anche, sì, ah, sì, anche sì, io. Sì, sì, sì. Va anche, bene, ecco. Franky, grazie, anche se resti con noi un altro po'. Questa è la prima pillola, ma ogni settimana staremo con il nostro amico Franky che ci accompagnerà in questo mondo. Grazie, a tra poco. Ciao, questa è la grazie. Pausa lunga? Pausa lunga, tra poco dopo il GR, scusate, non il TG, il GR. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Voice Anatomy. Tornati in diretta a Voice Anatomy, Radio 24. Abbiamo sempre alla mia destra il mio valletto d'eccezione di questa puntata, che è Max Tortora, tutto intero, tutto in 1,97 m. Posso dire una cosa? Dilla. Io mi sto talmente divertendo, no, che sono passato torno. Una domenica diversa dalle altre, che è sempre improntata la mia sul cibo. Questa volta finalmente mangio meno e mi diverto. E sta bene fisicamente, tornerò. Ammazza una bomba. No, Baboridis se sta bene, ma 35 anni. No, io vai in confronto a Tortora, ma ti dicevo prima fuori, Tortora non sai quanto va di moda. In sì. Sardegna quest'anno siamo stati tira. Ad un festival insieme. Ma chiaro, proprio così, chiaro. Uscivano dall'acqua. Saltavano. Ma come uno si aspetta su di te, su questi no. giovani? No, ma io che... aspetta, guarda che disgraziato, perché lui sa che lui acchiappa proprio, insomma, le giovanissime. Cioè, io tiro il milfone. Il milfone, per chi si mette in ascolto, è una donna già grande, ma anche quarantenne, può essere un milfone. Il fuori siamo oltre i 55, no, anche 40, 60, 65. Quello è GILF. GILF, Grandmother. Ha capito. Ma ah, scusate, io attiro, allora. Non lo so, vedi, non lo so più. GILF. Tu sei GILF, lui è più MILF, giovane, ragazzi. Non è. Qui mi dicono anche, caro Pino, una curiosità tecnica. Si sentiva in cuffia una presa diretta dei film porno? Sempre, certo, sì. Tutti i film che noi doppiamo, sempre oh la presa God. Diretta, altrimenti. Oh my God. Oh my God, sì. Oh. Era, oh mio Dio. Sì. Io una volta ho fatto un esperimento sale e olio porno. No, sì. Porno, metile, olio porno. Metile, adesso girare delle altre parti, ma non riesco purtroppo. No. Facciamo ridere. E far ridere, sì. L'esercizio in stile che faceva il grande Gigi Sabbani, faceva come facevano l'amore i politici italiani. Ah, è vero, grande Gigi. Sì. Io sì, abbraccio sì. ovunque a Gigi, è veramente. Li abbiamo voluto molto bene a tanto, Gigi. Tanto. Io ho passato dai bei pomeriggi da anni con Gigi. O al Matriciano, beh, se vuol dire, ma comunque sì, Matriciano, lui andava Matriciano, in certi sì. posti. Insieme a un altro signore che stava negli Squallor, che tu oh, ricorderai, sì, e grande. Che stava molto con Gigi, siccome il cervellaccio mio fragico non mi dà il nome. Gli Squallor, per chiunque si mettesse in ascolto, giovane come l'età di Vaporidis, era un gruppo demenziale fatto da degli autori di musica e testi che scrivono qualche musica per Mina o per chiunque altro, ma mm-hmm. uniti insieme era un gruppo goliardico pazzesco. Gli Squallor. Sì, vatti a cercare qualcosa, ormai Andrò. C'è tutto. Il 39. Adesso i nostri amici che via internet ci daranno subito il suggerimento, perché il cervello non mi sta dando il nome di questo grandissimo che insieme a Gigi passava molti pomeriggi. Ah, è vero, dovrei dirtelo io, oppure sì, Claudio Ferraro, che è un altro che ci segue, grande amico, che lui ci ha lavorato insieme in tante trasmissioni come autore, ma mi sfugge. È ha colmo, fatto anche con Arbore, ha fatto certo, indietro, faceva, tutta, indietro tutta, faceva la voce, la era voce uno degli autori. Sì. Daniele Pace no, Pace no, era un no, altro. No, no, vabbè. Ci arriverà. Adesso arriva. Toto Savio neanche, no. Toto Savio altro. L'unico no, che manca. Bigazzi, grande paroliere, eccetera. Cerruti. Alfredo Cerruti. Grande. Esattamente. L'abbiamo detti tutti, ma tutti grandi questi, signori. Voglio. Sì. E qui chi dice, ah, qui un sacco di messaggi per Frank, il venditore, dove vendere in Romagna, c'è cioè chi come si vende a Campobasso. Vabbè, avremo la possibilità di contattare ancora Frank ogni settimana per chiudere con lui dei piccoli grandi tutorial sulla vendita, però lui è già dall'altra parte. Allora, Nick. Come cominci? Che è successo? Prima di notte, prima degli esami, lì è stato lo sliding doors della tua vita, lì è segnato l'inizio. Ma sì, avevi sì. già 24 anni, eri grande, avevi già ti faccio sentire in depressione sì, totale. Grazie, avevo Dino. Già 24 già anni, avevo 24 non anni. Si può sentire, però avevi già dato, nel senso avevo... navigavi. Non così tanto, però sì, avevo dato, tra l'altro no, hai detto bene, proprio sliding doors, perché io a un certo punto, continuando l'università, mi ero ritrovato in un momento in cui non lavorando in modo continuativo, e per chi fa questo mestiere. Che facevi all'università? Lui architettura, Max? Io facevo scienze della comunicazione, tra l'altro architettura è quello che avrei voluto fare, se tornassi indietro farei architettura. Ecco, di ognuno. Per dire, così. E comunque io ho lasciato, nel senso ero andato a fare uno stage per l'università a Torino, e lì mi chiamò Fausto Brizzi, che io ero a Torino a lavorare e non ero neanche più sicuro di andare giù a fare il provino perché non potevo lasciare il lavoro. E nell'arco di una serata ho deciso, no vabbè dai, vado giù, faccio questo provino per sto filmetto, notte prima di esami, sai che stronzata dei film. No? Esatto, ci hai visto lungo anche lunghissimo tu. Lunghissimo, infatti, io devo dire che questo sono veramente un fenomeno, ho visto lungo, questo film sarà sicuramente una cazzata adolescenziale, non farà una vera, non succederà niente, come quelli che ho fatto prima. Esatto. Stacco, notte prima degli esami, quindi questo per dire che no, non c'è limite al... Ma credo che nessuno di noi possa mai intuire un successo o un insuccesso, cioè anzi pensi di costruire qualcosa di gigantesco e ti ritrovi immerso in un mare di melma. Io ho fatto dei film veramente dimenticabili, ne ho fatti 8 e li mandano tutti. Apparteniamo tutti allo stesso film. No, io faccio proprio i dimenticabili di Rete 4, li faranno tutti insieme molto presto. Cominciai con un film che poi invece ha fatto epoca e io ho detto lo faccio con la scucchia, ma hanno anche doppiato 35 anni fa, che era mezzo destro mezzo sinistro, io giocavo a pallone. Ti hanno doppiato? Sì, in Veneto, mio collega. No, l'ho scoperto al cinema, ho detto andiamo a vedere il film che ho fatto con Gigi Andrea, Leo Gullotte. Ci sei rimasto malissimo. Esatto, che se andiamo, dai, ma non l'ho fatto così, e sono stato doppiato, l'ho fatto con la scucchia, ma sono identico, stessa faccia da Melacotogna, con i capelli neri, ma sempre io. Per cui tutti gli anni mi incontro, ho fatto Carlo Vacca, che poi il nome l'ha inventato Andrea, di Gigi Andrea. Andrea Roncato, Vacca Carlo significa, cioè Carlo Vacca, cioè questa è stata. Però io ricordo un film dove tu fai molto bene un metronotte, un che non era un film sulla polizia penitenziaria, quello non era male, metronotte era... non era male, non mi ricordo il titolo, ma non era Dalla male. Vita in poi. Esatto, facevo questo. Sì, non credo che quello sia tra i dimenticabili. No, forse, il film forse... è fatto bene perché c'erano anche dei bravissimi attori. C'era Giorgio Pasotti, Nigro, Filippo Nigro. Comunque c'era il tuo ruolo che aveva una sua bella dignità. Era un bel ruolo, No? Ma che poi, scusate, questo concetto dei dimenticabili è molto relativo perché di film dimenticabili anche all'epoca 30-40 anni fa ne sono passati tanti che poi sono diventati dei filmoni. Che se io quello aspetto fra 30-40 anni. Che quando saremo morti, esatto, diranno cavolo, ho fatto cazzo un film, quanto erano bravi. Primo fece un film in punta di piedi che andò anche a Venezia come opera prima, ci hanno gonfiato. Non volevo fare un'intervista su di me, ma visto un po' di autonomia. A Venezia devi andare col casco perché è pericoloso. Ho capito, ma tu non ti puoi neanche presentare 34 anni fa con un film a opera prima, dove Venezia c'era soltanto il cinema vero, Leone d'Oro, e poi queste opere prime dove sono passati i Fellini, sono passati tutti. Questo signore fece in punta di piedi con i soldi del papà, erano tutti quelli parenti di, c'era la Nazischi, la cugina di Nastassia Kinski, c'era Modugno, ma il figlio di Modugno, c'era il cognato di un altro attore famoso, e poi c'era Insegno Pino. Sì, esatto. Sistema di lavoro mi ricorda tanto qualcosa. Era un film terrificante, ho passato due mesi bellissimi, ma il giorno prima andammo a vedere un altro film, l'opera prima dell'amico Biagio Proietti, perché era un film non bello, Chewing Gum, con Ciavarro e la Ferrari, e poi, insomma da lì poi Isabella Ferrari è diventata Isabella Ferrari, ma c'era una scena dove lui dava uno schiaffo a lei, lei dava uno schiaffo a lui, si alza uno dalla platea e dice adesso una regista, grazie, urlandolo, e già abbiamo capito che genere di persone il giorno dopo avremmo incontrato. Il giorno dopo va il film nostro, red carpet, tutto quanto, fili tutto bene, entriamo, un film, vabbè, io ve lo farò vedere, una cosa brutta. No, però scusa, sta roba qui specifichiamola, perché la gente normale, normale tra virgolette, sì, chi non fa il nostro mestiere, probabilmente non immagina nemmeno quello che prova un attore quando va ad un festival in concorso con un film che ha il terrore, perché questo è gli attori, il cast, il regista, il terrore dei giornalisti, dei critici, perché due sono le cose, o ti osannano o tu esci che sei letteralmente spaccato in due, che ti servono 3-4 settimane. Come se Marvin Hagler ti avesse gonfiato de botte, è uguale. No, ma con i bastoni di legno, quindi tu esci e hai bisogno di andare in terapia perché dici io mi nascondo perché esatto. Se esco questi mi sfondano, oppure vai avanti con una grossa forza. E qui chiudo questo blocco che mi sta facendo cenno, però alla fine del film non c'è stato nessun applauso, uno si è alzato, ha fatto la domanda a cosa si è ispirato lei per fare questo film, e lui ha risposto beh, i film on the road americani fra Easy Rider e un altro film di Michael Cimino. Quello ha detto vabbè, volevo chiedere vedere cose, invece ho capito che parlo al muro, me ne vado, fate quello che faccio io tutti, grazie, e se sono stati tutti dalla sala e se ne sono andati. Vabbè, questa è stata l'esperienza mia, non è state ringraziando Dio l'esperienza vostra nella tua. Restate con noi, abbiamo appena cominciato a chiacchierare con il dottor Bavoridis e la mia valletta d'eccezione Max Tortora. Grazie per la valletta. A tra poco, vuoi sonare? Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, stavamo raccontando che magari qualcosa nel futuro sarà salvato dagli altri, eh sì, non sì, da noi. Ritorno al futuro fondamentalmente. Esatto, sono le 4 e all'ora di merenda in Sicilia devi fare il Venditori. Vabbè, queste sono cose che arrivano. Complimenti, poi c'è Rudy, tutti complimenti a Vaporidis, il mio punto di riferimento, altre donne che urlano, vabbè. Beh, io sono un ragazzo timido, perché loro magari non lo sanno, io mi emoziono, divento rosso. Tra l'altro c'è qui Mauro che sta facendo la diretta in continuazione come un avvoltoio sulla spalla. Sì, ha trovato questa strada nuova, non è più radio ma è televisione. Esatto. Da quella parte. Insomma, c'è stato questo salto dove lì hai cominciato ad avere un nome e un cognome, e per cui un'accessibilità diversa nel mondo, nello status della notte cinematografia. Prima degli esami, sì. Però anche staccarsi da quel ruolo non è stato semplice, no. Perché tu subito dopo hai fatto il tuo primo ruolo drammatico, se non ricordo male, Cemento Armato. Cemento Armato, tra l'altro poi sempre con la stessa cricca, perché erano, esatto, sempre Brizzi e Martani, autori e registi di Notte Prima degli Esami, che si erano... stavano sperimentando un altro genere. Tra l'altro Marco Martani, che è stato il suo primo e ad oggi ancora l'ultimo film fatto da Marco, spero non per, no. Per noi, però sì, con Giorgio Faletti, grande, stato il mio secondo Giorgio Faletti, che persona purtroppo deliziosa. Ultimo film con Giorgio, poi Notte 2. Sì, però è difficile, cioè in effetti se tu fai lo stesso cast di un film che ha avuto un certo tipo di successo, sì, un certo tipo di musicalità, tu fai quella canzone di successo con quel gruppo, con l'orchestra, e poi all'improvviso si aspettano comunque una cosa simile. Ma infatti ci hanno meglio. Messo abbastanza per il culo, ve lo scrivevano Cemento Armato Notte Prima degli Esami, no? O Il Cemento Prima degli Esami, ne ho lette di cose di questo tipo, perché era Carolina Crescentini la protagonista di Notte 2, sì, Faletti, Faletti che fa il cattivo, io, la stessa banda di autori registi di Notte 1, gli stessi produttori. E certe volte c'è la voglia di stupire troppo presto. Troppo presto, forse è una questione di timing, presto. Però io ti assicuro che Cemento Armato, almeno dal mio punto di vista, è stato il film in cui io ho dato veramente di più. No, ma era bello, era sicuramente bello, però questo sarà uno di quei film apprezzati dopo, magari come dopo, dici sì, dopo. Quando si saranno dimenticati, no, che hanno staccato stessi... il periodo storico, lì era troppo vicino, era sì. Assolutamente troppo vicino a Faletti, sì. Aveva l'immagine, tu avevi quella, non potevi staccare. No, ma lo capisco, ma ti dico, ma così pure, la gente ti vuole. Probabilmente era giusto anche forse non farlo, però tanta è la passione poi quando fai quelle cose, ma che sì. Quando trovi un testo così bello lo vuoi realizzare, noi non abbiamo pensato alle conseguenze dell'immaginario collettivo, ah, come subito dopo Notte Prima degli Esami questi tre fanno un film di questo tipo, noir, dove si sparano, quindi forse la credibilità di quei personaggi mischiata era difficile da rendere, però... Ad oggi rimane il film a cui io sono più tra virgolette più affezionato per come un discorso attore, artistico. Sì. Poi Notte Prima degli Esami, vabbè. È come se Meconi dopo Tre metri sopra il cielo avesse fatto immediatamente il Romanzo Criminale. Una non poteva passare da pollo a Fiero Locchio in un secondo. Hai dovuto aspettare 10 anni. Hai dovuto aspettare 10 anni per farlo. Adesso devi aspettarti 10 anni prima di fare un altro pollo del genere. E invece al mio amico Tortora. Quello, gli piace il cinema, tanto lui a me piace molto il cinema, però qua, io il ruolo mio ancora non è arrivato, purtroppo. Io attendo sempre, tra l'altro tu sai che io faccio la famosa questua, no? Io scrivo dei soggetti su di me, perché sono un bel sarto per me stesso, però non significa che quando si dasa non possono farlo altri, e porto questi soggetti ai vari produttori, ecco qua è arrivato Tortora, no? Che vuole questo ancora, che poi ci hai portato due firme l'altro mese, mo che già ne hai inventati in altri due, questa è l'approccio. Qui c'ho le Frank Merenda che ti insegna come venderli questi. Frank, ci sei ancora in studio da qualche parte? Allora, soggetti, metta Frank Merenda, ci potesse dire come collocare questi, esatto, devi portare lui, soggetti, lui riesce sicuramente a farti anche a livello internazionale, perché e poi succede questo, anche l'amico Gabriele Mainetti non ha avuto vita facile con Gig Robot, no. Quando si presentava e diceva no, un supereroe qui in Italia dopo ma la Marvel, io, no? Ma tutte le immagini Gabriele Mainetti, che è come quando ci siamo raccontati la storia di The Artist, il film, ma te lo immagini il regista Gabriele Mainetti in questo caso va da un produttore e gli dice senti, io c'ho una storia, è la storia di un supereroe De Borgata, esatto. Che fa casca, entra al fiume, esce, c'è superpoteri, spacca di botte tutti. Tu guarda, immaginati la faccia dei produttori che noi conosciamo, che cosa possono avergli detto ascoltando la trama. Ma gli ha fatto entrare. Senta, caro, oggi abbiamo da lavorare, si può tornare con calma un'altra volta, sia gentile. No, io volevo approfittare della presenza. Sì, se pensi nostro... pure Stallone, quando ha presentato Rocky, ha portato un giro 7-8 anni prima di farlo diventare. Sarà venduto pure il cane, Silvestre Stallone, poveretto. Berillo, se l'ha ricomprato, il cane che compare nel primo film di Rocky. Birillo. Era il suo, Birillo. Lui se l'era venduto perché non poteva mantenerlo. Birillo. Ha fatto il film e poi è andato a riprendersi, è andato a ricomprare quando ha avuto successo. Gli altri, le storie nostre. Questa è bellissima, non la sapevo, ma è una storia bellissima. Tu devi aiutare a vendere. Max, allora, Max, ecco, io cos'è? Qual è il passaggio in questa filiera tra lo scrivere, inventare, realizzare un soggetto e poi portarlo a destinatario? Qual è nella filiera la cosa che può essere nociva forse alla credibilità della persona che lo porta, a parte la persona che forse so io, ma non vorrei flagellarmi. Allora Max, la verità di solito alle persone nel mondo dello spettacolo non piace, e io la dico perché in realtà è una cosa corretta, e ci serve saperlo, sì, nel senso che il punto più importante è che ogni persona in realtà quando comincia una carriera, voi ne stavate parlando prima, ok, è una cosa che non piace, lo so, però viene identificata con un brand, cioè ti arriva un marchio sopra, mentre gli artisti, essendo artisti in quanto tali, vorrebbero dimostrare al mondo che sanno fare tutto. Quindi uno nasce come attore comico e dopo un po' no, io voglio fare vedere che so recitare anche da attore drammatico. È il problema. E il problema è che la gente, in realtà la tua faccia, quando tu cominci, viene identificata con quella cosa. E tu tendenzialmente o sei Meryl Streep o sei Alp, cioè pochissime eccezioni a livello mondiale per tutta una serie di motivi, e viene identificato con quel tipo di brand, quel tipo di personalità, cioè non esistono gli attori nella testa delle persone, esistono le personalità, quindi la tua faccia quando esci viene come Pino, cioè Pino per quanto Pino sappia fare tutto tecnicamente meglio di tantissime altre persone, o abbia comunque uno spettro molto ampio, uno lo vede e sorride, perché il brand di Pino è farti sorridere, farti stare bene, ok? Quindi certo che lui può interpretare un attore drammatico, certo che può fare quello, un ruolo molto diverso, però se tu prendi anche i vari attori, al cinema, cioè la cosa che è successa poi al dottor Vaporidis, ma non è solo a Nicola, se in generale tu prendi gli attori che hanno fatto un enorme successo anche se non erano attori, per esempio, no? Prendi Schwarzenegger, finché faceva i ruoli nei quali era dentro, poi ha cominciato a voler fare l'attore brillante, fiasco, Last Action Hero, fiasco, il botteghino, tutti i grandi attori, Mel Gibson cambia ruolo, non se lo va a vedere nessuno, e Sean Connery, è uguale. Bond. Però poi ci sono dei registi coraggiosi che riescono a prendere dei personaggi che sono riconosciuti dal pubblico come dei grandi comici, se non scritti, caso Giorgio Faletti, Notte prima dell'esame, lo trasformano. Certo. Oggi i rumors dicono di Massimo Boldi nel film protagonista di Paolo Sorrentino, Massimo Boldi. Sì, allora ragazzi, vuol dire che noi viviamo in un paese dove una vecchia ha fatto tutta la vita Bresciallo, che vuole quella pezza, porta, tutta la vita ha fatto. No, poi c'è da dire anche, Max, questo discorso, nel senso che c'è da considerare anche l'ambiente, nel senso che in Italia sappiamo che è diverso in termini di opportunità, di apertura mentale in realtà, rispetto che se tu fossi all'estero. Sì, all'estero la voglia di sperimentare tendenzialmente, di rischiare, di investire in proprio è più grande, quindi qui più giochi sul sicuro tendenzialmente, certo, più è facile che qualcuno possa valutare la tua proposta. Vedi che tanto scemo non devo essere, perché io sostengo quello che dice lui tecnicamente da sempre, e so che il problema è quello, e so che per spiazzare sia gli addetti ai lavori che il pubblico, io ho sempre cercato di muovermi nonostante tutto in maniera trasversale, perché mentre c'era l'imitazione dei sordi facevo la sitcom da una parte e il film da un'altra. Esatto. Però purtroppo non basta. Però poi se presenti tu il copione non devi essere tu intanto a presentare il copione, ci vogliono i soliti agenti che ti rappresentino in un'altra maniera, che abbiano una struttura e una strategia su di te, ma è sempre più difficile trovare persone che riescano a costruire una strategia su di te. Per questo abbiamo fatto una puntata speciale di Quark che parla esclusivamente di questo. Lo vedi che mi do la zappa sui video da solo io. Michele Santoro. Sì, ma tu pensa per esempio al Santoro, discorso quanto tempo ci ha messo anche attori estremamente grandi, estremamente famosi. Prendi l'attore che ha vinto l'Oscar adesso, che derivava da Titanic, Leonardo DiCaprio. Io ho conosciuto bene il fratello, Peppino. Quanti anni, Peppino era fortissimo. Quanti anni ci ha messo per scrollarsi addosso il ragazzino belloccio di Titanic? Non lo vinceva l'Oscar. Per quanto sia un fenomeno in termini artistici, ammazza, è un mostro. Però pure The Revenant, che io ho avuto la fortuna di doppiarlo, per carità. Però lui fa i numeri a colori, ma a livello emozionale, sì, per me no, mi ha dato tantissimo, un film gigantesco, meraviglioso, ma è National Geographic. Mm-hmm. Però lui si è buttato di sotto, si è messo dentro il cavallo nudo, ha preso freddo, si è buttato nell'acqua. Ha preso pure 60 milioni di dollari. Ah, per fare tutte queste fatiche, ragazzi. Io mi buttavo per molto meno. Povera stella, ha dormito dentro un cavallo. Sì. 60, io per 20 milioni. Dormivo pure a casa dentro, tua. Dormo dentro di me. Segno. Ti faccio da fodero. Vedi come. Però ti faccio da contenitore, Pino, per 20 milioni. No, ma che tu pensa che metà da truppa è scappata, però metà film e lui ha dovuto, perché meno 30 gradi. No, però hai ragione. A mio avviso è molto più completo DiCaprio nel film precedente, sì, Wolf, dove si fa vedere un ventaglio di emozioni capaci di passare dalla rabbia alle, sì, dalle grida alla, sì, alla coattaggine, c'era tutto nell'arco di un'ora e mezza. Lì è fenomenale. Ma gliel'hanno dato in realtà alla carriera, perché dopo metà devi darglielo, perché sennò sembrava ridicolo. Infatti, no? Hai visto come ha ringraziato lui? Non so se vedete, no, un dettaglio meraviglioso. Sì. Adesso in radio non si può vedere, ma lui tiene la busta con il suo nome, dove c'è scritto di Oscar Goes to Leonardo DiCaprio. Lui la tiene con il dito così, in questo modo. Ah, è vero. La tiene così. A Facebook, mentre, si vedeva su Facebook. E mentre parla con l'Oscar in mano, e questo qui praticamente lui manda a far culo tutta la platea, come a dire: sono passati 20 anni, ecco il mio Oscar, con un aplomb meraviglioso, sorridente, carino. Lo voglio farlo pure io, pure io di sotto fa. Vedo di piastra busta. Me la so appuntata io questa mossa di Carlo. Che bello. Ah, dobbiamo andare in pubblicità e torniamo immediatamente. Vaporidis, Merenda, che ci dà qualche dritto ormai pure a noi, non solo pillole per i venditori, ma anche per noi. Max Tortora, grazie, a tra poco. Voi sal- Voice Anatomy, domenica particolare, questa idea strepitosa della trasmissione, nella trasmissione, perché sempre e comunque di radio si tratta, anche se riusciamo ad andare in una diretta Facebook straordinaria. Devo dire che oggi sono venuti dei ragazzi bravi, veramente bravi, anche ci hanno scritto tantissimi, ma fatelo, continuate a farlo, qualcosa accadrà, anche perché poi qui ci sono un sacco di professionisti. E da cosa nasce cosa? Magari avessi avuto noi la possibilità di fare una cosa del genere, farsi vedere così, e senza essere presi in giro, perché non c'è, non è Italia Got Talent, nel senso che non si fa la presa in giro di chi magari ha una peculiarità. Voglio cominciare questo blocco verso Max, per poi andare in una cosa molto interessante con Nicolas, però ascolta queste poche note, Max. Sì. Bart, il vecchio Bart. Io tra l'altro ho una bellissima foto con un Bart che ti farò vedere. Sì, Bart Bacharach, sì. E questi i nostri autori hanno scovato. Che bello, però, eh? I say a little prayer for you. Io dirò una piccola preghiera per te. È il matrimonio del mio migliore amico. Sono sul cinema, sì. Ma Barba Bagra, che è stato preso e messo ovunque, grande re del pop bianco, pazzesco. Cerco la foto per fartela vedere, perché sembra che Visto pregnacci. Che andiamo anche. No, sei, non sei riuscito con Morgan Freeman. Ma che significa per te Barba Bagra? Perché? Significa. Perché è così importante? Allora, è importante perché quando io sentivo Bart Bacharach nello stereo 8, che erano quei mega cassettoni che mio padre aveva in macchina sulla Fiat 132, con i sedili in finta pelle Scars, che niente a che vedere con Sky l'emittente. No. E io pensavo, da buon ottimista qual ero da bambino, che la vita sarebbe stata una bellissima favola con la colonna sonora di Bart Bacharach. Manco per niente. Quindi adesso io lo ascolto con grande rimpianto, reminiscenze varie della famiglia. Ma è ancora lì, è ancora a gira. Però ogni anno, quando lui viene a Roma, io lo vado a vedere. E anch'io sono andato un paio di volte, perché lui. Aspetta, che ti cerco la foto. Mentre lui cerca la foto con Bart Bacharach per dimostrare in diretta che è vero tutto questo, invece a me piace l'attività di Nicolas come produttore. E non soltanto la tua, ma c'è un altro paio di amici che insieme a te hanno cominciato questo percorso interessante, no? Sì, due bastardi dentro e fuori, sì. Sono nell'ordine, sono in tre in realtà, sono il primo Reggiamini. Sì, Reggiamini, è primo un Reggiani. Attore, un povero derelitto, ma ci è stato presentato da Andreotti. Quando che arrivano queste cose? E poi me lo becco io domani mattina. Ma te lo devi sorbire tutto. Ma verrà anche lui, avrà diritto di replica. Matteo Branciamore ed Eros Galbiati. Ah, siete quattro, è vero, siamo c'è anche quattro, Matteo. In quattro. Però aspetta, perché il concetto di produttore può sembrare sono arrivati i produttori, Titanic 2, bravo, sboroni, arrivano, fanno. No, non è questo. Il nostro è un approccio un po' più soft, è un approccio un po' più decisamente più modesto, e cerchiamo di fare fondamentalmente come fai tu qui, Pino, che è una cosa fighissima, che è quella di provare a cercare nuovi talenti e dargli la tua piccola esperienza, il tuo know-how, come si dice in comunicazione, la tua esperienza, il tuo know-how per, e non solo, anche dei fondi per sostenere i loro progetti, quindi le maestranze, le attrezzature, per cercare di creare dei contenuti che possano essere poi visti. E noi utilizziamo la forma più comune oggi, forse la più facile per noi compatibilmente con i budget, che è quella di internet, quindi creiamo web contenuti, serie importante, web, cortometraggi, abbiamo fatto documentari per poi presentarli ad un mercato che è alternativo da quello del mainstream, quindi cinema e TV. Questo è bellissimo, perché secondo me è giusto che una persona che arriva a un obiettivo, almeno all'inizio di un obiettivo, a dare agli altri la possibilità di poter arrivare anche loro in quell'obiettivo ed arricchirsi, perché gli americani in questo sono molto forti, i featuring, cioè nessuno canta più da solo, se ci fai caso, nessuno fa un film più da solo, ma perché? Perché se vogliono bene tutti? Magari no. Però si aiutano, perché ma manco noi, io lo so, studiamo faccia la mattina, esatto, cioè, fortemente ci mandiamo messaggi minatori, ma non odiate le persone che cominciano, perché se quello avrà successo non farà altro che allungare la tua vita artistica anche a te, sì, che sì, sei prima produttore ma sei anche un attore. Infatti noi non lo facciamo pro bono, non è che lo facciamo per un senso di ritorno personale che non è economico, o quantomeno non, per ora non è economico, no, per nulla, ma non sarebbe soltanto un discorso economico, sarebbe un discorso di soddisfazione tua di aver creato dei contenuti dove tu come attore non partecipi, però il fatto che tu li abbia messi insieme, che tu abbia creato la festa tra virgolette, quindi mettendo sceneggiatore, regista e altri attori, posso è una dire soddisfazione bella, sono molto bravi loro sono molto bravi, perché io ho visto quest'estate in Sardegna siamo andati a un Figari Film Festival. Hanno portato i loro operazioni. Quante ne avete portate? Una decina erano. Abbiamo portato due serie web, quindi quattro autori che hanno scritto rispettivamente una e l'altra serie. Di queste due serie web sono oggi in finale al Roma Web Festival, per esempio. E sono fatte molto bene, sono molto bravi, perché puoi raccontare in maniera short delle cose intelligenti, fatte molto bene, gran ritmo. E poi dai la possibilità a tanti giovani attori di mettersi dovrebbero in mostra, farlo in anche minuti. Le nostre grandi reti Rai, per esempio, no? Cioè, dare la possibilità a giovani produttori di poter produrre, di crearsi un posto all'interno di tutto questo. La foto con Omar Bacharach, oddio, sembrava zia Maria, invece no, è Bart Bacharach, perché ultra ottantenne, eccola qui. È vero. Sono io. Sì, sì, quello con i capelli bianchi e Barbagara. Sì, sì. Esatto. No, ma questa cosa, ecco, io sono sempre dell'idea. Io quando ho aperto un'accademia tanti anni fa, gratuita per 9 anni, formando decine e decine, non da solo con 14 insegnanti, era gratuita con i soldi dell'Europa che c'erano, si potevano chiedere per questi voucher, eccetera. Poi mi hanno fatto le pulci perché pensavano che avessi chissà fatto, chissà cosa rubato. Poi hanno capito che non ho fatto in galera. Non è mai successo niente perché abbiamo sempre formato le persone e sono dei grandi professionisti. E quello che sta facendo Nicolas con gli altri tre pazzi. Poi questa cosa che dici tu di formare è lo step successivo che vorremmo fare, perché come sapete tutti quanti su internet nascono dei casi fenomenali, ma sono appunto spontanei, tipo The Jackal, The Pills, piuttosto che altri gruppi di ragazzi molto bravi, ma non esiste una formazione alla scrittura per un timing 3-5 minuti per episodi che sono 5-6 di una stagione. Esiste la scrittura TV, la scrittura cinema, ma non c'è l'educazione a una scrittura di questo tipo, che secondo me funziona moltissimo in commedia, non funziona meno quando si racconta un altro genere, ma in commedia un pezzo da 3 minuti è uno sketch e se lo vedono fondamentalmente tutti o con più piacere. Poi non è facile, perché in 3 minuti c'è lo sketch, anche te lo dico personalmente con la premiata ditta, siamo stati gli ultimi figli di quella storia dello sketch, esatto, perché 5 minuti c'ha un crescendo drammaturgico importante, far ridere, lo startup, l'inizio, il grande centro e poi il finale che deve stupire, esatto, che andrà a essere botta in testa, infermieri. Tu lo sai bene quanto è difficile riuscire a far ridere Max pure in 5 minuti. Anche ma la sintesi è un dono che non tutti hanno, tu puoi anche far ridere, ma se poi ti sbrodoli addosso e non riesci a costruire la gente dice chissà quanto vi divertite, state improvvisando, no la comicità è pazzescamente matematica. Poi allargarti al centro e improvvisare al centro se sai che andrai poi a parare in un finale. Adesso dico una frescaccia, ma il mio aver letto milioni di giornaletti paghetti, come si dice a Roma, no? giornalini, la paghetta. Fumetti. Io leggevo i giornaletti da ragazzino, ma ne leggevo tipo 30-40 al giorno. Credo che abbia influito sul fatto che uno sketch di 3 minuti mi nasce già composto, in quanto sono abituato da quando ero piccolo ad avere un inizio, uno svolgimento e una fine, esatto, che hanno un ritmo che quello deve essere, e io lo sento a pelle, come serrato, se fosse una musica. Che leggevi? Tutto Topolino, Geppo il diavolo buono, Tiramolla, Nonna Belarda, Pugacioff. Grande Pugacioff, Nicola Stefano, oh, grande. Ma tu sei giovane pure, sì, come sì. Nicola. Le si trovavano ancora quando ero giovane. Nonna Belarda, uscivano insieme. Criminal. No, io andavo su quelli più short, proprio, più semplici. Geppo il diavolo buono. Geppo era meraviglioso. Geppo meraviglioso. Anche Braccio di Ferro. Sì, anche Braccio di Ferro. Braccio di Ferro, io mi ricordo che in una puntata c'era Sdrenato sotto zero. Braccio di Ferro me lo ricordo, ma tutti gli altri no. Nick, sei troppo giovane. Ma tu sei giovane. Io sono dell'81, scusate. Come, caro, noi nell'81 già c'avevamo un inizio di prostata, io e Max. Nell'81 già avevamo fatto, già ammazzavo 3 volte per notte io nell'81. È più bella così, vedi? È più bella così perché ammazzavo già 3 volte a notte. Credo che sia mia, è la mia trasmissione. È fantastico. Per cui è mia questa. Io adoro. È bella. È più bella che dire veramente il titolo della malattia. Così è molto divertente. Però bella, qual è l'ultima web girata? Come il titolo, di cosa tratta? Si chiama Segreti, l'ultima web girata, ed è... Che non ha nulla a che vedere con quello singolare che fanno sudamericano, no? Quello è il segreto. Che cos'è? No, questa è tratta da una piattaforma su internet che si chiama insegreto.it, dove la gente posta in modo anonimo segreti di accaduti. Altri. No, i propri. Perché tanto è anonimo, quindi non hai né riferimento né niente. Metti soltanto se sei uomo o donna e l'età che hai. Noi, anzi i due ragazzi che sono Matteo Nicoletta e Niccolò Senni, sono venuti da noi per proporci di girare questi segreti in video, quindi trasformare il post in un video. Sono delle freddure, sono dei concept da 1 minuto e mezzo, che tipo bello. I mostri. E questa qui la potete trovare sulla piattaforma Discovery. Questa è l'ultima che abbiamo prodotto, che è uscita adesso a giugno. Mentre il Camerlengo di cui sopra è un'altra serie che parla invece abbiamo preso in giro un po' il Vaticano. In una città come Roma è tranquilla, esatto. Possiamo fare serenamente. Anzi, ma ci hanno suggerito, perché non attaccate il Vaticano, che funziona? Esatto, e funziona e vi aiuterà tantissimo. Attaccato in senso lato, abbiamo preso in giro il concetto del Giubileo, no? Quindi siamo usciti l'8 di dicembre con questa serie, con Luis Molteni che fa questo Cardinal Walter, che è il Camerlengo che deve organizzare all'ultimo minuto un Giubileo detto dal Papa 6 mesi prima, e quindi tutto quello che dentro le stanze del Vaticano può succedere per organizzare in commedia chiaramente un Giubileo, ed è esilarante per la me. Risposta ai film dei Moretti, sì, però di mi copiano tutti, non c'è niente da fare, sono stato il primo a parlare del Papa, vero, dei Nino. Preti, del Vaticano, adesso tutti Sorrentino, perfino Vaporidis, tutti mi copiano. Vabbè, fino a che Sorrentino va bene, ti direi. Senti, Nanni, fammi fare pure a me una cosa, no? E tanto la fa, sicuro. Certo, ma c'è nel Young Pop, c'è anche lui, visto, l'ha fatto con Sorrentino. Ah, l'ha fatto... Se non lo chiamo io, lo chiama lui. Okay, per noi non c'è possibilità, c'è Vaporidis, tra l'altro devo dire che con questa operazione che loro hanno fatto, Segreti, oltre al fatto di aver realizzato delle cose molto carine, molto belle, fanno i tale scout, perché dentro, certo, ci sono degli attori che mai avrebbero avuto altre opportunità, mai, no, però insomma, ci sono anche invece degli attori molto famosi che lavorano in modo regolare, che vengono a divertirsi, a fare magari, tra l'altro io mi sono proposto per uno, è vero, ecco. ma è come... io posso fare la voce del trailer, ma con grande piacere, ma la bellezza è poi riscontrare nel settore attori che fanno il loro lavoro ad altissimo livello, quindi sono sempre molto impegnati in cinema, TV e teatro, che però un'ora si divertono mezza giornata a fare delle cose che non potrebbero fare in TV e al cinema, e che invece possono sperimentare con noi sul web, e questa cosa è fantastica. Urliamolo tutti. È bello per risparmiare questo. No. Ma guarda che tante volte è bello come fanno gli americani, un'opportunità, ma certe volte non dicono neanche che l'hanno fatto quel film, cioè Will Ferrell che fa il film da Adam Sandler, lo scopri alla fine, ma Will Ferrell, Steve Carell, Owen Wilson, Ben Stiller, sul canale YouTube che si chiama Funny or Die, dove loro sono praticamente veramente quattro scemi che quando non hanno impegni di lavoro vanno a fare le loro sperimentazioni comiche, è esilarante. Certo. Sì, sì, ma è così. E sono attori che guadagnano milioni di euro al box office con i loro cachet, eppure si divertono a sperimentare come fossero dei ragazzini usciti dal centro sperimentale. E poi si aiutano. Noi qui invece spesso e volentieri, anche con la premiata, quando abbiamo chiamato degli altri colleghi senza fare i nomi, c'è la prima serata, venite, facciamo le cose insieme. Matteo Branciamore, gruppi comici consolidati. Bellaggio, scusami, Bellaggio dice quanto le danno per fare questa cosa. Lei, no, ma io davo gli stessi quanto prendere per fare questa cosa? Ma mi danno dei soldi se vengo? Sì, certo. Allora vengo. Sì. È uguale, cavolo, è così. Cazzo, è uguale comunque. Il villaggio di adesso è questo, è vero. Un po' disincantato, anche cattivello. No, per carità, scusi, non è cattivello, ma quanto prendere per questa cosa qui? Questa poca, la radio poca, infatti non ti do niente neanche a te. Si può fare la pipì in piscina, signorina? No, che c'entra adesso? Stiamo preparando l'ultimo blocco, dai. Stiamo andando in pubblicità per l'ultimo blocco insieme a Max Tortora, Nicolas Vaporidis e Frank Melenda. Vaporidis, aggiungi una S che non c'è, hai detto Svaporidis. No, Svaporidis sarebbe un'offesa stupidissima. Pino, insegno che insegni, ma ammazza quanto sei alto, le solite cose, so, dai. E dai, e noi ci trattano così. Che tempo fa lassù? Lassù, fatica. A tra poco, poi tra poco. Voice Anatomy. Eccoci, stiamo parlando di Lazio, Roma, perché fra poco ci collegheremo con tutti i convocati, che non sappiamo i risultati. Stavamo dicendo che non siamo mai stati integralisti come laziale o lui romanista, eccetera. Ma questo si sa, Roma insomma vive intorno al calcio, sempre e basta. Invece, anzi, del diciamo Sassuolo, che ci vogliamo bene come dei cugini. Ma noi sì, non stiamo qui 3 ore tutti insieme. Diciamo, immagino, diciamo, no? Perché si deve sapere. Sassuolo è forte. Che punti ci hanno rubato? No, rubato. Adesso mi fammi denunciare pure oggi. Sta domenica, sei andato così bene. No, ma non è arrivata la PEC, non è arrivata la lettera, allora vi freghiamo. Non poteva giocare quello, non era segnato. Ma no, era segnato, avevamo mandato la lettera. Detto, ma perché sta pia con me? Io che c'entro? Ho capito, ma tu sei laziale, io Sassuolo. Ma che c'entro? Non ha voluto mica lo dire. Ma è una gioia per 40 anni una volta che Sassuolo. Lascia stare, amico mio. Allora, ci siamo, questo è l'ultimo blocco insieme. E invece il tuo di impegno adesso, Nicolas, teatro, lo sfascio, sì, l'ho visto anch'io, una cosa molto sfascio bella. Vecchio. Lo sfascio era vecchio, poi hai fatto altre cose dopo. Non te lo ricordi manco te. Che vuoi da me? No, ritorno al presente, e poi lo spettacolo, un altro, si chiama Finché giudice non ci separi, che abbiamo portato in scena al Golden, che tra l'altro riprendiamo adesso ad ottobre con la stessa compagnia, Augusto Fornari, Tony Fornari, Luca Angeletti e Laura Ruocco. Sì. Ma in giro o ti no, fermi? andiamo in giro, siamo. Io non ce la faccio più, andare in giro. Però tu sei giovane, giusto, giusto, i tournée non si sa. Fatti raccontare da Augusto Fornari, sempre parlando di quando si fanno le cose fra amici, in tempi non sospetti noi abbiamo fatto Casa Bee Gees, dove facevamo i Bee Gees, io, Augusto Fornari e altri due. Cos'è Casa Bee Gees? Era da morire da ridere, erano i Bee Gees che vivevano a Roma e parlavano così come cantavano. Come era da morire da ridere, io ho ancora la videocassetta e Augusto faceva, io facevo Barry, quello più bello e lo più alto. Sì, più bello, quello che è ancora vivo, poi l'ultimo di Fratelli Gibb, poracci, sì, che forza. Ma questa Augusto non me l'ha mai raccontata, ma io pure Casa BG se non me l'ha mai detto. No. Non è siamo male, veramente divertiti tanti ma anni questo fa. Bisognerebbe continuare a fare come diceva prima Nicolas, ecco, il fatto di divertirsi quando magari stai lavorando in un altro modo. Non c'era il web e noi lo facevamo con le videocassette. Mamma, bello fuori di mamma, forza Roma, forza. No, questo è mio figlio. Ah, perfetto. Allora, il bambino di 1 anno e 8 mesi, la madre ha detto: deve crescere, non come gli altri due figli, che tu l'hai incamerato, della Lazio, cioè, dovresti essere libero. L'outsider. Quando cresce a scuola, deciderà di che scuola. Io torno a casa e sento il bambino che fa: Oh, ma. T'ha preso un colpo a te? No, non è quello. So che vive a Roma questo ragazzino ed è nato a Roma. Cioè, lui stava raccontando la sua città di origine. Giusto. Capito? Giusto. Però chi gli ha insegnato? La madre, capito? Lo so. Vabbè, ma si accetta. Poi lui a domenica rimarrà solo a casa quando gli altri vanno allo stadio. Però ma niente, ci avrà degli zii come il mio amico Alex Bitt che dice: lo porto io allo stadio tuo figlio, eccetera. Dunque, è fighissimo come è facile addestrare i bambini piccoli, tu sì, padre, perché tanto li ricatti. Vuoi venire allo stadio con papà e vieni a vedere la Roma. Esatto. Puoi giocare a, non lo so, a macchinetta. Hai giocato lì la partita virtuale e giochi con la Roma. Esatto. Come ho fatto... Però c'è un momento di passaggio in cui loro decidono cosa saranno. donne il resto della loro vita. Esatto. E quello secondo me è databile intorno ai 7 anni e mezzo, 8. Sì, lo so, gli amichetti, gli amichetti. Lì non c'è niente da fare. Io spero che ci abbia un amico del Manchester United. Chiaramente c'è la fase in cui te odiano e tu sei il nemico numero uno. Dai 13 ai 18 tu sei perché un papà, no? Papà, sei, non ti voglio vedere, non ti voglio sentire. A quando il primo figlio? Io non vedo l'ora. Dai. Soprattutto non vedo l'ora di arrivare nella fase quella adolescenziale 13-18 dove... Utilizziamola, in questo momento sei fidanzato? No, sono Vaporidis, che non è neanche da buttare via, un bel ragazzetto, devo dire più affascinante adesso di quando era ragazzino. No, ragazzetto è bello, adesso è un uomo, Nico. Esatto, adesso è un maschio, vero? Prima un bel pischello, adesso sono invecchiato, vino, sono invecchiato. No, stai bene, sta bene, cosa che pure tortura, pure tortura. Adesso io stavo aspettando. Attenzione che c'ho Capuano in diretta, non sappiamo i risultati di tutti i convocati. Capuano, io sono sereno oggi. Sì. Come stai? Bene. Sei sereno perché i miei ospiti, c'è Max Tortora, sì. C'è Frank Merenda, c'è Meconi che sta facendo l'autore e Nicolas Vaporidis. Ovviamente un Sassuolo, due Roma, un Lazio e dall'altra parte il resto. Come va tutta la giornata dalla motociclismo? Dopo, che è successo? No, guarda, correvano le auto oggi. Correvano le auto. Sì. Auto non ti do neanche, scusami, una gioia, perché correvano le auto invece delle moto. Ha vinto Nico Rosberg davanti a Ricciardo, terzo Hamilton, quarto Kimi Raikkonen, quinto Sebastian Vettel. C'è stato un momento in cui abbiamo sperato di poter salire sul podio con la Ferrari, con Kimi Raikkonen, poi c'è stata una diversa strategia, insomma quelle cose lì, le solite che in questa stagione stanno penalizzando la Ferrari. E siamo arrivati quarto Raikkonen, quinto Vettel, però è stato un gran premio interessante, più divertente di quelli che ci siamo abituati a vedere negli ultimi mesi e devo dire che anche la Ferrari ha fatto vedere qualcosa. Raikkonen è riuscito a superare Hamilton a un certo punto, evento epocale. Beh, Vettel non è partito per ultimo? Vettel è partito per ultimo, ha rimostrato. Dimmi tutto il Pantheon, non mi hai sulla rotonda allora. Vettel aveva una strategia diversa, quella di fare una sosta in meno, l'ha portato fino alla quinta posizione, poi però gli altri erano troppo distanti e lì è rimasto. Se vuoi ti aggiorno sulle partite. Scusa un attimo, c'è un attimo, tanti complimenti. Sor Tortora, per cortesia, mi fa l'imitazione di Bombolo? Non lo so fare il Bombolo, quello è, non è il grandissimo Andrea Perroni. Esatto. Che fa Bombolo. Esatto. Io lo faccio con l'ABC, cioè l'ABC sarebbe il minimo sindacale. Se vuoi. Ma che ha fatto vinta la Ferrari? Beh, uguale. Lo so fare io. Vabbè, uguale. Dopo non lo so fare. Vabbè, scusa Capuano. Commentatore. Sì. È uguale. Metter pecorina. Perdona, non lo so fare, sta più zitto. Scusa Capuano. Ma sì, vabbè, se vuoi fa Bombolo lo devi dire, ragazzi. Esatto. Scusate, lo sapete qual è il corridore automobilistico che gli puzzano di più i piedi? Vettel. Ma cagare, dai. Scusa Capuano, vai avanti con il calcio. Perdona. Dai, ti do gli aggiornamenti delle partite, sì. Sì, che non sono ancora finite. 0-0 Torino-Empoli, siamo proprio negli ultimi istanti. 2-0 del Sassuolo sul Genoa, Politano e Zeffrelli, tutto nel secondo tempo. 2-0 il Sassuolo. Grande Sassuolo, è finita adesso Torino-Empoli 0-0. C'è una partita praticamente definita ed è il Cagliari che sta vincendo 3-0 sull'Atalanta con doppietta di Marco Borriello. Il Cagliari sull'Atalanta, doppietta di Borriello. Compreso un gol sul calcio di punizione. E poi quella un po' più indietro è Crotone-Palermo, siamo sull'1-1, mancano 5 minuti più recupero alla fine, insomma questa è una partita ancora in bilico. Se vuoi ti dico anche che tra un'oretta, ma questo dovresti saperlo, c'è Inter-Juventus e pare che sia in panchina Higuain. Le ultime danno Mandzukic e Dybala in attacco. Ma perché non ce lo prestano? Vabbè. C'è va chi bene, può insomma, e chi non può. Senti, mi senti molto tranquillo Capuano, no? Ma ti sento tranquillissimo. Se vuoi ti do il risultato della Lazio. Esatto, quello che non conosco. La Lazio ieri ha vinto 3-0. C'era un calcio di rigore per il Pescara sul finale del primo tempo, ma Memusciai ha tirato fuori. Esatto, l'ho visto. Capuano, grazie, in bocca al lupo per la tua trasmissione che farei subito dopo. Sì, bene, alla grazie, prossima. Grazie, sono appena in segno. Quanto mi sarebbe piaciuto a me nella vita fare una cosa del genere. Le commentatore sportivo? Sì. Vabbè, ci sta. Sì, devo chiudere perché dobbiamo dare la linea a tutti i convocati. Nicolas, un bacio, un abbraccio, grazie. Pino, grazie davvero, grazie a te. Grazie a tutti. Tanto avremo gli altri della tua truppa di produttori straordinari. Vai. Grazie, Max Torto. Grazie, Storto, io scherzo sempre, non mi denunciate mai. No, c'ho una casa sola, mi serve che devo abitare. Frank Merenda, domenica prossima ciao con te invece per i tuoi tutorial. Grazie a Mauro Meconi per la diretta di Facebook. Grazie a Alessia Navarro, grazie a Valerio, grazie alla nostra nuova amica che mi sono dimenticato il nome. Però va bene, Rachele, perdonami, grazie a Milano. Ciao a tutti, Voice Anatomy torna domenica prossima. Ciao.